A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La Zanzara. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelle stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. Basta! Basta! Basta! Oggi sono in buona, Parenzo, ti avverto, sono in buona, sono carichissimo, vedi di non buttarmi giù con qualche cosa delle tue, con una trovata delle tue. Però parla piano che qui c'è gente che dorme e riposa. Ma chi sta dormendo, scusa? C'è gente che riposa e che c'è un'influenza terribile in giro. Ok, mi hai già buttato giù, sono carichissimo, già mi hai già ammosciato tutto. Ma che sei carico per il processo Ruby? Guarda che ti mando Giannino per 20 minuti di seguito, Ti mando il basta di Giannino per 20 minuti di seguito, ti avverto. Ma che c'entra il processo Rubi? Quello era evidente che avrebbero rifiutato il legittimo impedimento, È chiaro. Io vorrei oggi fare tutta una puntata dedicata all'Ilva, sentire anche il parere di Gotore e di alcuni intellettuali che ci Ma Gotore adesso non è più intellettuale perché è anche candidato col Partito Democratico. Ecco, ma lasciamo perdere, guarda, la gente per strada. Ho capito, a me non me ne frega niente di questi. Non me ne frega niente di questi nomi che tu che la gente non conosce, detto con tutto il rispetto. Io ti voglio far ascoltare invece che cosa? Ti voglio far ascoltare un intervento di Stigli. No, ti faccio ascoltare il meraviglioso Gabriele Albertini che minaccia, tra virgolette, Formigoni, uno degli audio della settimana, dove ho ascoltato un sacco di cose interessanti. Certamente la principale è questa qua. Se l'avesse, diciamo la verità, diciamola tutta subito, la diciamo subito agli ascoltatori della Zanzara, caro Parenzo. Se questa frase pronunciata dall'ex sindaco di Milano, cui voglio un bene pazzesco, l'ex sindaco di Milano Albertini, candidato al Senato con Monti, candidato alla presidenza della Regione Lombardia, se questa frase che state per ascoltare l'avesse pronunciata Berlusconi, sarebbe successo l'ira di Dio. Diciamola subito. Dimmi se sei d'accordo o no. Sentiamo. Io faccio un avvertimento a Formigoni. Non mi inquieti troppo, perché posso fare delle dichiarazioni che lo metterebbero a terra e lui sa di cosa sto parlando. I colloqui che hanno riguardato alcuni argomenti molto vicini a lui sono avvenuti nel mio ufficio. Poi ha precisato che si tratta di cose politiche, però certo ha detto, Formigoni, non mi stuzzichi, non mi provochi, dopo la rottura e dopo l'appoggio di Formigoni a Maroni, non mi provochi perché potrei vuotare il sacco. Su cosa, Albertini? Su cosa? Con tanti galli che cantano. Dillo anche tu che è un ricatto. Scusami, no, ricatto no. Ma non sei tu quello che dice che in politica e in campagna elettorale vale tutto? Ma infatti non dico nulla, mica ho dato un giudizio su questa cosa qui. Sto dicendo semplicemente che se la stessa frase l'avesse pronunciata Berlusconi, sarebbe venuto giù il mondo. Dillo chiaramente. Sì, questo è vero. Questo è vero. Dopodiché è vero. Che no, non mi interessa. C'è tempo. Io non posso pensare dove lei non può arrivare mai. C'è una parola, d'accordo. Stai zitto, lo so, perché Alemanno, dichiarazione di oggi, signor Alemanno, sindaco di Roma. Berlusconi leader per un centrodestra vincente. Sono stati sufficienti pochi giorni di inizio di campagna elettorale per constatare che Silvio Berlusconi è ancora oggi l'unico leader in grado di aprire una prospettiva vincente per tutto il centrodestra italiano. Ma è lo stesso Alemanno che non più tardi del 31 gennaio scorso diceva che Berlusconi doveva passare la mano? Sarà stato ed è il fondatore, ma è chiaro che oggi deve passare la mano sempre più a una nuova classe dirigente, e questa classe dirigente deve spendersi in prima persona. È superato il tempo. È lo stesso Alemanno che diceva la scorsa primavera che Berlusconi doveva essere presidente di una fondazione? Secondo me dovrebbe seguire l'esempio di quello che hanno fatto Aznar, di quello che hanno fatto Blair, quello che probabilmente farà Sarkozy, cioè deve creare una grande fondazione, fare il presidente di questa fondazione e da là dare indicazioni, messaggi, eccetera. Cioè, Alemano diceva Berlusconi non deve contare più nulla, non deve contare più un cazzo, cioè deve mettersi da parte, deve stare lì, fare il padre nobile, fare le sue università, le sue cose, adesso tocca a noi. Avete visto? Avete visto com'è finita? Sì, avete visto com'è finita. Intanto Berlusconi nelle sue numerosissime interviste radiofoniche e televisive dice che ci deve riprovare perché il comunismo non è finito. A Bendola dice vada a Cuba e forse capirà che cos'è il comunismo. E che ad Alfano vuole bene come un figlio. Poi dice anche che i piccoli partiti, questa è una cosa che ripete sempre, che i piccoli partiti sono una iattura. Sentiamo, perché anche qui c'è da dire qualcosina. Gli atteggiamenti egoistici dei piccoli partiti, che posso dire non guardano mai e non agiscono mai guardando all'interesse generale, hanno come unica preoccupazione il loro interesse particolare, che si identifica sempre, si confonde. Vi ricordate quando Berlusconi dice bisogna votare solo i grandi partiti, no? I piccoli sono la vera iattura perché non riescono a far governare, eccetera eccetera. Lo sapete quanti partiti, quanti movimenti si candidano con il centrodestra al Senato? Tu lo sai, Parenzo? Hai letto qualcosa? Mi pare 7. Ma che sei? 7 è il centrosinistra, non hai letto nulla. 14. Anche il centrosinistra, per carità, sicuramente accumulerà in alcune regioni un numero di simboli i più svariati. Però certo 14 liste in tutto. 14 liste. E poi dice che non bisogna votare i piccoli partiti. Ah, ho visto che c'è Grande Sud, Io Sud. Aspetta, stai tranquillo. Uno dei nostri miti, il sindaco di Salerno, De Luca, sentitelo su Monti, eccezionale. Ma che tristezza, ma vederlo lì fare il politicante, a presentare uno che veniva dal PD Chino, uno che veniva dal PDL Mauro, Albertini che veniva dal PDL era amico di Formigoni e Monti come un baccalà che stava lì. Ma si capisce che non è mestiere tuo. Ma come si fa? Ho provato tristezza, imbarazzo, cioè lo vedevo come un pesce, ma chi ti ci mette? Casini, Fini, il rinnovamento, il rinnovamento, e dai! Siamo qui la Zanzara 800 24 00 24, è sempre più campagna elettorale. Un attimo, fammi parlare. È sempre più campagna elettorale. Ho visto una cosa meravigliosa, delle immagini meravigliose, caro Parenzo, nel weekend. L'hai vista anche tu, quelle donne tutte nude in Vaticano, a Piazza del Vaticano. Ah, ecco. Delle immagini, è stata una grande battaglia. Immagini che devo dire mi hanno fatto emozionare. Non so come dire, ma non per le donne nude, per carità, non è che c'è bisogno, per fortuna, di vederle davanti al Vaticano. Perché queste donne davanti al Vaticano a rivendicare le cose, gli omosessuali, queste cose qui, insomma una certa libertà, no? Libertà, queste donne mi hanno fatto emozionare, mi hanno fatto venire una stretta al cuore, come dire, mi hanno detto vabbè, fiorello su questo. In topless in piazza San Pietro. No, Ucraina. No, nude durante il l'Angelus. Ma il Papa non se n'è accorto. Sapete chi se n'è accorto? Se n'è accorto Padre Gheorghe, che stava di fronte, le ha viste e ha detto allora Dio c'è. Scusate, non volevo, cancellatela, perché se no mi finisce come Guzzanti, mi vengono a prendere le guardie svizzere, ragazzi, no. Io non l'avevo ascoltato prima, ma stavo dicendo proprio questo, adesso fra poco finisce come per Guzzanti, che un signore che si chiama Borgomeo, che dice di rappresentare i telespettatori cattolici, come se io, grande rispetto di chiunque sia cattolico, ma non è che esiste il telespettatore cattolico. Io vado ai matti quando sento il telespettatore cattolico. Un telespettatore poi può essere cattolico, può essere buddista, può essere di mio nonno in carriola, come questo signor Borgomeo dice di rappresentare a nome di un'associazione i telespettatori cattolici. Le Iene hanno ripreso la Zanzara. L'Aiard chiede la chiusura del programma. minaccia, denuncia, il presidente Luca Borgomeo ribadisce il suo pensiero al programma radiofonico La Zanzara. Noi riteniamo che quella programma lede il diritto del cittadino. I conduttori difendono il diritto di satira di Corrado Guzzanti. Qui è satira in un programma televisivo, nessuna offesa, nessuna bestemmia. È la satira di Guzzanti, perché non vi piace la satira? Ma il presidente Borgomeo è inflessibile. Borgomeo, lei considera Guzzanti uno che ha offeso la religione, come lo considero? Considero una persona che nel fare satira è andata al di là delle leggi. Delle leggi. Ma certo, Borgomeo ha proprio ragione. Ma non c'è bisogno di ricorrere a una denuncia. È sufficiente far scendere in campo il moralizzatore con la sua arma segreta, la super predica. Tutte le papere piangono. Bene, siamo qui, caro Parenzo, siamo qui però con un personaggio, con un personaggio, con il primo personaggio della serata, è un avvocato, si presenta alle elezioni con Berlusconi, in una lista con Berlusconi, credo solo in Campania, perché sai, in Campania è una regione molto importante, bisogna raggiungere... Non è Samorì. No, che c'entra Samorì? Non c'entra niente. No, quando Samorì. Penso all'avvocato, penso a Samorì. L'avvocato, la lista si chiama. Attenzione, questo è molto importante. La lista si chiama Liberi da Equitalia. Liberi da Equitalia, capito? Sì. Lo ha fondato l'avvocato di Maradona, Angelo Pisani. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. Come sta, Pisani? Sto bene, solo che non ci sentiamo solo in Campania, siamo presenti in tutta Italia, alla Camera e al Senato. Ah, tutta Italia, no, ma infatti io ero incerto su questo, poi mi sono buttato sulla Campania perché so che lei, insomma... Ma questo simpatico avvocato, molto divertente. Adesso Parenzo la attaccherà pesantemente, tanto lei fa l'avvocato, è abituato a battagliare. Siamo zoppo a posto, prego. Questo simpatico avvocato che ha inventato un simbolo che sicuramente acchiappa voti, molto divertente, lo sa che un suo alleato, cioè Giulio Tremonti, è quello che ha inventato Equitalia, questo avvocato simpatico, lo sa? Lo sa che non è vero, perché Equitalia è stata inventata da Visco e Prodi. Ma sì, però tutti quanti l'hanno accettata, implementata, eccetera, eccetera. Quindi l'invento Visco e Prodi. Sì. Poi vabbè. Tremonti, diciamo che non l'ha migliorata, questo sì. Senta, Equitalia, Prodi. Avvocato Pisani, al di là di Equitalia, eccetera, lei è l'avvocato di Maradona. Sì. Non mi dica che cercherà di raccogliere voti anche in nome di Maradona. Ma Maradona è il testimonial di questa battaglia di legalità, di cultura. Cioè il testimonial della lista? Il testimonial della lista è Maradona? Potrebbe essere anche il capolista in tutta Italia, al Senato, perché ovviamente Maradona è... Ma come capolista al Senato in tutta Italia? È l'espressione di testimonianza di un perseguitato da 25 anni dagli errori di Equitalia. Ma deve pagare, a parte che deve pagare un sacco di tasse, poi non vuole... Assolutamente no, perché Maradona è completamente estraneo. Questo lo dice lei, avvocato. Non lo dico io, lo dice la legge. Lo dice lei, secondo il figlio. Non esiste la cartella esattoriale, no. Maradona è un perseguitato. Scusi Pisani, però mi faccia capire, adesso lei dice che è un perseguitato, ovviamente il fisco dice che deve dare 40 milioni di euro, non vi siete messi d'accordo una prima volta, chissà se vi metterete d'accordo, questa è un'altra questione. Non però... c'è accordo, perché la legge è chiara. Vabbè, questo secondo lei però, Pisani, non è che lo dico. Secondo la legge. Beh, ok, d'accordo, secondo lei interpretata da lei, cioè non la legge. La legge dice per adesso che voi dovete dare 40 milioni, però guardi, a me non me ne frega niente, non voglio dare né ragione a lei né al fisco. Io voglio capire questa cosa qua, Maradona potrebbe essere capolista? Sì, in tutta Italia. Ma come fa a essere capolista? Mica cittadino italiano, non può fare nulla. Testimonial del movimento in tutta Italia, proprio per rappresentare la persecuzione che subiscono tutti i contribuenti. Sistema malato, noi non siamo contro Equitalia, siamo contro i metodi sì. Equitalia è contro una normativa che risale al 1973 del medievale, dove purtroppo però Pisani... i cittadini sono sudditi dello Stato. Va bene, d'accordo, io voglio capire una cosa, come fate a mettere Maradona capolista, scusi? Basta che sia testimonial del nostro movimento, quindi il nostro testimonial è Maradona, abbiamo il giocatore più forte ma capolista bisogna essere... lo sport. Vabbè, ma questo lo sappiamo, adesso non ci faccia la lezioncina su Maradona, sappiamo chi è stato Maradona. Il punto fondamentale è un altro. Come fate a mettere capolista? Lei ci sta spacciando una cosa che non può essere realizzata. Ma io ho detto che Maradona è il testimonial del nostro lei movimento. Ha detto potrebbe essere capolista. I capolisti saranno tutti professionisti, commercialisti, vabbè, avvocati, d'accordo. E saranno i cittadini, quindi saranno il numero uno in tutti i collegi. Dove scusi un attimo, allora che c'entra Maradona? Potrebbe esserci scritto Maradona, no? Perché lì la cosa l'avete già presentata. Come fate a mettere il nome Maradona nella lista, scusi? Ma nessuno ha detto che si mette il nome Maradona. Ho capito, ma come fa a essere capolista? Scusi. Non si utilizzano nomi per la lista non ha bisogno di... zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Siamo qui, la Zanzara, 18:49, con David Parezzo in collegamento da Roma e con il mitologico avvocato di Maradona, Angelo Pisani, che è qui sono con noi. Sono mitologico, grazie. E vabbè, per però, me sono tutti mitologici. Grazie, che grazie. È candidato possiamo... con una lista contro Equitalia, diciamola tutta. Ma non possiamo far passare questo messaggio. No, quale messaggio? Io non devo far passare nessun messaggio. No, ci siamo, possiamo far passare una lista, l'avvocato. Una lista del sistema fiscale per l'equità. Sì, vabbè, d'accordo. Però scusi un attimo, Pisani, mi dica la verità, da chi è stato contattato? Con chi ha parlato nel PDL lei? Ho parlato con i vertici del partito e con i coordinatori del partito. Cioè con Verdini direttamente? Anche con Verdini, sì. Anche con Verdini. Cioè lei ha parlato l'avvocato di Maradona, cioè Angelo Pisani, ha parlato direttamente con Verdini. Ma perché non, cosa? Non è solo l'avvocato di Maradona, è un avvocato che rappresenta, sì, certo, 56 associazioni in Italia, presenti da 8 anni. Sì, presidente della comunità della municipalità di Napoli, dove c'è Scampia, eccetera. Che insegna all'università diritto processuale tributario. Ah, diciamo, sì, pure. Un esperto, diciamo, della materia, che da 10 anni, sì, coltiva questa materia e cerca di migliorare, sì, quello, certo, che purtroppo in Italia non funziona. Però scusi Pisani, dunque lei ha parlato direttamente con, cioè la sua candidatura, la sua lista è frutto di un colloquio tra lei e il signor Verdini, giusto? No, la lista è frutto di un colloquio tra Verdini e tutti gli alleati degli altri partiti. Vabbè, d'accordo, però si decidono collegialmente. D'accordo, però Verdini ha dato l'imprimatur, giusto? No, non Verdini, tutti i partiti, tutti, diciamo, gli alleati hanno, sì, voluto, diciamo, confluire in questo. Scusi, ma non è che lei ha per caso l'idea è quella di candidare magari il figlio di Maradona? Sai che sì. Vuole candidare il figlio, se perché vuole, perché no? È un giovane. Poi esprimere, diciamo, quelli che sono ovviamente la volontà dei giovani. No, le do un consiglio, se volete mettere il nome di Maradona nella cosa, candidato il figlio che c'ha. Ma non abbiamo bisogno di mettere un nome, siamo tutti professionisti e penso tra l'altro... Vabbè, se mette il nome Maradona, se mette il nome Maradona lei capisce che no? Cioè. No, ma noi facciamo una cosa diversa, non inganniamo, sì, la gente. No. Noi rappresentiamo la volontà dei cittadini, le esigenze e le emergenze da affrontare. Sì. Quindi a differenza degli altri partiti che hanno bisogno, sì, di slogan e di pubblicità... Ma scusi, quando ha parlato con Verdini... lei ha detto, insomma, ha capito che la situazione in Campania, più voti si raccolgono meglio è, che c'è premio di maggioranza al Senato, giusto? Ma in tutta Italia dobbiamo raccogliere voti, non solo in Campania. Sì. Dobbiamo raccogliere voti dovunque, perché dobbiamo vincere, dobbiamo riformare l'Italia. Sì. Cioè, noi, certo, ci interesseremo del sistema fiscale, ma bisogna riformare la sanità. Cioè lei, capito Parenzo, è candidato magari a diventare, che ne so, sottosegretario, le piacerebbe fare il sottosegretario alle finanze, Pisani? È una maratona, sarà un mio contributo. Può dare il suo cosa, cioè non stonerebbe la sua presenza, come dire, come sottosegretario alle finanze, al tesoro, all'economia, quello che è. Assolutamente no, perché ci vuole una competenza per affrontare determinate materie. Non c'è dubbio. Dopo 15 anni di professione, forse di averla, sicuramente. Parenzo, che vuoi dire? No, dico che questo avvocato sta candidando una persona, vorrebbe coinvolgere politicamente Maradona, che è una persona che deve 40 milioni di euro. Vabbè, secondo lui non è vero, è tutta... No, ma il vostro è un messaggio sbagliato, perché Maradona è completamente estraneo. Vabbè, ma questo lo dice lei, Pisani. Ma voi non potete dire il contrario, perché non c'è nessuna... Beh, il contrario per adesso lo dice, scusi un attimo, Pisani. Non esiste una sentenza che dice... Sì, vabbè, questo è il contenzioso. Cioè, fin quando non esisterà una sentenza... Ho capito, però il fisco dice che dovete 40 milioni, altrimenti non ma ci sarebbe discussione. Sapete che esiste una sentenza del 1994 che ha avuto l'accertamento? No, però scusi, Pisani, non vogliamo fare di nuovo il processo fiscale a Maradona, altrimenti non la finiamo più. Quindi vi dico prima, scusi, no. Certo, però devi sapere, Parenzo, che l'avvocato Pisani è quello che ha praticamente negato di girare Gomorra 2 a Scampia, capito? Sì, questo lo so. Mi dia un giudizio lapidario sul signor Saviano, avvocato Pisani. Cioè, secondo lei, che personaggio è Saviano? Roberto Saviano. Saviano è un ottimo imprenditore, è uno scrittore. Cioè, imprenditore che vuol dire? È un imprenditore, è uno scrittore, uno che fa romanzi, fa film, guadagna tanti milioni sul cinema. Lei dice sulle sfortune di Napoli guadagna. No, sulle sfortune, perché Napoli non ha sfortune, Scampia non ha sfortune. Vabbè, sulle sfortune, insomma. Tutte le città del mondo ci sono degli omicidi, ma avvengono a Milano, a Roma, a Bergamo. Beh, adesso lei sta dicendo che Scampia non è tanto diversa da Napoli. Assolutamente no. Io anzi la invito a Scampia no, a venire un giorno. Ma io non ci penso. E lei si renderà conto che è uno dei quartieri più belli della città di Napoli. Purtroppo è stato strumentalizzato negli anni dal film Gomorra, sì, e da tanti giornalisti che hanno... Cioè lei sta dicendo che per esempio la camorra a Scampia non c'è? La camorra non c'è solo a Scampia, la camorra c'è nel mondo, no, c'è, certo, in Italia, c'è a Napoli. C'è però Scampia è un quartiere, diciamo, fin come dei conti, altri, rispetto, che ne so, alla periferia di Milano, un quartiere tranquillo, diciamo. Allora, Scampia è un quartiere normale, ma Scampia normale, è, vittima, è vittima di una sola cosa. Vuoi sapere di cosa Scampia è vittima? Di cosa? È vittima di 30 anni di mala politica. D'accordo, ma Saviano che c'entra? Lei dice... Vabbè, lasci perdere il centro-sinistra, su. Scusi, Pisani, io voglio capire una cosa. Secondo lei Saviano campa sulle tragedie della propria terra? Saviano guadagna milioni di euro perché è un bravo imprenditore, un bravo scrittore, ma quante imprenditore, volte è uno scrittore. Quante volte l'ho invitato a Scampia da venire nelle scuole a rappresentare e a insegnare la legalità ai bambini, non è mai venuto. Cioè, dice, sfrutta le... Questo lo sta dicendo lei. No, è una domanda, domanda. Assolutamente no, io ho detto che è un bravo scrittore, lo ringraziamo per le denunce che ha fatto. Ma se lei dovesse essere eletto, scusi Pisani, se lei si candida? Io mi candido. Sì, se dovesse essere eletto, farà una battaglia pazzesca su Maradona lei in Parlamento. Va in Parlamento per far tornare Maradona in Italia, mi dica la verità. Io farò una battaglia per i cittadini italiani, fiscale, non solo per Maradona. Dobbiamo chiarire anche il caso di Maradona perché è uno scandalo. Vabbè, da 25 anni il miglior giocatore del secolo possa stare fuori dall'Italia per un errore. Se uno non paga le tasse, magari può restare fuori dall'Italia. Posso dire una cosa, non esistono tasse da pagare. L'accertamento fiscale. Pisani, vedremo. L'accertamento vedremo. Fiscale presupposto è stato annullato dai giudici. Voi dovete credere ai giudici. Vedremo. Grazie, a presto. Grazie, arrivederci. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Why don't you go home? Basta! Basta! Basta! Let me eat my burrito. Non mi moleste moschito. Why don't you go home? La mia però siamo anche il paese dove nel redditometro il detersivo che consumo nella mia cucina è diventato un indicatore sintetico del reddito e del patrimonio. Uno stato guardone così, non c'è da nessuna parte al mondo. Sì. Metti che ho le emorroidi e consumo molto sapone, che cos'è? Il fatto che sono molto ricco, ma per favore. Sì, però lo... Non mi moleste moschito. Giannino è l'esempio delle emorroidi. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi, la sicurezza mi ha sconsigliato di fare comizi. Sugli indagati deciderà una commissione. Monti, il cavaliere, mi ricorda il pifferaio magico. Bersani con il professore, patto sulle riforme ma no a scambi di favore. Polemica sull'ipotesi di desistenza con Ingroia. Vendola, su questo decide il PD. Sondaggio TG3, centrosinistra al 36,5%, dietro il centrodestra ma il PDL recupera, testa a testa nelle regioni chiave, Casini in studio, il tribunale decide, il processo Rubi va avanti, i legali di Berlusconi chiedevano la sospensione per le elezioni, la Boccassini non è candidato premier. Debito pubblico è record a novembre, ma per Banca Italia il dato di dicembre sarà migliore, industria e produzione in rosso, Marchionne prende le distanze da Monti. Morto a Reggio Emilia l'ex BR Prospero Gallinari, non ha mai collaborato con i magistrati, partecipò al sequestro e alla detenzione di Aldo Moro. Durante la consegna del Golden Globe, Judy Foster dichiara per la prima volta in pubblico la sua omosessualità, ringrazia la ex compagna e i figli l'applaudono. Berlusconi, ho sbagliato giudici, non avvocato. Quanto sarebbe il giorno? Ma io ragiono ancora. Milioni... Io ragiono ancora in vecchie lire. E quindi in vecchie lire sono 200 milioni al giorno. Ma è sicuro di non aver sbagliato avvocato? Io non so chi sia il suo avvocato. Forse ho sbagliato giudici. È più facile dire sbagliato giudici. Io non lo so chi sia il suo avvocato, però... È una cosa che sta fuori dal senso comune, che sta fuori da tutto. Non è possibile. Non è pensare possibile che per mantenere un certo livello di vita ci sia bisogno di civili di questo genere. Posso dire una cosina sul legittimo impedimento? Adesso, per carità, avete sentito nei titoli del TG3, la Boccassini non è candidato premier. Però... al di là dei tecnicismi del legittimo impedimento, non è che uno viene impedito solo per il fatto che è candidato premier. Cioè, uno potrebbe essere anche capo della coalizione, essere impegnato nei comizi. Questo al di là di che cosa significa il legittimo impedimento, per me, cioè, si può discutere fino all'infinito, ma non è che il fatto che sia candidato premier o no cambia la sostanza, no? Ma guarda che è una cosa incredibile la sua. Ma perché, scusa, non ho capito. Cioè, tu allora, dai ragione alla Boccassini fosse... anche su questo. Cioè, si interessa la Boccassini si interessa del fatto che Berlusconi sia candidato premier? No, perché se fosse candidato premier cosa accadrebbe, scusa? Cosa ci sarebbe di così diverso? Non ho capito. Il problema non è né il candidato premier, il problema è che lui si deve presentare. Ma sì, ma lascia perdere adesso... questo. Io ho detto un'altra cosa, ma è possibile che non capisci mai quello che dico? Cioè, no, perché sei talmente anti-berlusconiano che non riesci a capire che non riesci, no, io non sto difendendo nessuno, io sto dicendo una cosa molto semplice, il fatto che la Boccassini entri nel merito dicendo siccome non è candidato premier e nemmeno non so che cosa, allora il legittimo impedimento non può valere, mi sembra francamente una cosa che si poteva pure evitare di dire, cioè si può semplicemente decidere di non concedere, cosa che poi i giudici hanno fatto, o di sostenere che Berlusconi non ha diritto al legittimo impedimento, ad usufruire del legittimo impedimento, sì, ma per motivi, certo, dire, giuridici, non per il fatto che non è candidato premier. Cioè, mi sembra una cosa francamente assurda. È la stessa argomentazione di Bersani. È la stessa argomentazione che ha utilizzato Bersani per il confronto televisivo. Te ne rendi conto o no? Ma chi c'entra questo? Ma le regole sono regole, eh? Va bene, le regole. Tu sai solo dire questo: le regole sono regole. Poi, senza capire che le regole sono interpretate, ci sono degli uomini, ci sono delle posizioni anche politiche. Per te, tu basta dire questa frase di una banalità totale: cioè, le regole sono regole, sì, e te la cavi così. Paese, e te la cavi in un così. Un paese come il nostro, dove tutto viene sempre calpestato. Vabbè, Giorgio da Modena, fammi sentire Giorgio da Modena, che mi sa che Giorgio da Modena, secondo me, ha qualcosa di molto più interessante basta! Da dire. Giorgio da Modena. Beh, con la premessa di Bassa di Giannino. Senta, io sono dell'UDC e presumo che devono uscire ancora le liste. Sarò candidato al Senato e ho il grandissimo onore di essere con il professor Monti. Non ho capito, non ho capito nulla. Ho il grandissimo onore di stare col professor Monti. Ma che vuol dire il grandissimo onore di stare col professor Monti? Grandissimo onore. Ma non ho capito, perché lei sarà se è candidato in quelle liste, te credo che dice che è un grosso onore, non è un disonore. Al Senato, ovviamente. Scusi, però dire, ma in che posizione è della lista in Emilia Romagna? Molto bassa, ma non mi interessa. Vabbè, è un allora... servizio che si fa al paese. Mi spiace. Sì, molto... però adesso non stia qua a pigliarci per il culo, un servizio che si fa al paese. Questo lo dice lei che la sto prendendo per il culo. Lei parla da solo, si autolede. Comunque, volevo dire questo. Mi autoledo. No, è assolutamente. Per quanto riguarda invece il sindaco De Luca, mi spiace tantissimo che una persona equilibrata e capace come lui nel fare il sindaco non abbia colto invece la conferenza stampa di Monti in Bichino di Mario Mauro Albertini, che dimostra il fatto che noi siamo la vera novità. Vabbè, ma lei si è già, vedo dalle sue parole, dal frasario che usa, il grandissimo onore, l'unica novità, vedo che si è già immerso totalmente nella sua nuova veste di candidato della lista Monti, cosa che va benissimo, per carità. No, io sono dell'UDC candidato alla lista Monti. Lei dell'UDC candidato alla lista Monti, va bene, va benissimo. No, volevo dire questo, che non ha colto il fatto che la presenza. Lei sa di essere candidato. Lei sa di essere candidato insieme al Senato in Toscana, però con il signor De Giorgi, direttore di gay.it? Guardi, noi siamo persone tolleranti e libere. Peccato che il suo leader Casini pochi mesi fa ha detto che i matrimoni gay e l'adozione gay erano qualcosa di totalmente incivile. Cosa c'entra i matrimoni gay con la candidatura di uno che sostiene i matrimoni gay da una vita? No, non c'entra nulla, per carità. È un piano nell'agenda Monti. Per quanto volete dire che di queste cose non me ne frega assolutamente nulla? No, non è che non ce ne frega, sono temi etici che andremo a discutere. Andrete a discutere. D'altra parte, il candidato di cui parlavo prima, Alessio De Giorgi, direttore di gay.it, ha cominciato, come dire, si è immerso anche lui nel ruolo, perché dice le foto con le drag queen, quelle dove c'erano le tette finte che lui leccava, vanno contestualizzate, ma non c'è nulla da contestualizzare in quelle foto, cioè sono talmente evidenti che non c'è da contestualizzare. Era una festa legittima, per carità, uno dovrebbe rivendicare, sì, mi piace andare alle feste con le drag queen, cioè punto e basta, no? le foto vanno contestualizzate, non c'è nulla da contestualizzare. E l'altra cosa è che invece il matrimonio omosessuale, sì, ma non è una cosa importante, l'unione gay, lo dico con pragmatismo, purtroppo il matrimonio tra gay non può essere primo posto nel nostro ordine del giorno. Insomma, si è già immerso nel ruolo di candidato della lista Monti. Che diceva Giorgio? Sì, sindaco, il sindaco di Salerno, quella persona veramente capace, sì, non ha colto che Ichino, non ha colto che la presenza di Ichino, la presenza di Mario Mauro, la presenza di Albertini rappresentano il fallimento del bipolarismo. Tutto vabbè, qua. D'accordo. Noi siamo la novità. Punto, il candidato stop. Giorgio da Modena. Luca da Mantova. Buonasera, volevo solo fare riferimento alla polemica sulla satira di Guzzanti, la satira cattolica. Che c'è da dire ancora? A me va bene tutto, è un grandissimo professionista, però volevo dire a tutti quelli che fanno satira, dalle vignette sui giornali alla televisione, facciano quello che vogliono, però facciano anche satira su, per esempio, sull'Islam. Ma lei vuole imporre a qualcuno di fare satira su qualcosa? No, per carità, forse mi sono espresso male. Allora volevo dire che la satira non venga fatta magari solo su, magari con il Papa, no? Vauro che scrive, fa vignette sul Papa in modo molto pesante, le faccia, cioè se vuole fare un professionista, ci sono temi anche per quanto riguarda l'Islam. Ci vuole il pluralismo nella satira religiosa, dice. Sì, perché la par condicio. Ce ne sarebbe da far satira, no? Ma guardi che la fanno, satira sull'Islam. Io non la vedo molto sui giornali, Corriere della Sera. Sì, ma insomma, non è evidentemente non è tema di grandissima attualità, e comunque in Italia ci sono molti più cattolici che musulmani, c'è il Papa e non ci sono gli imam, comunque non c'è una grande concentrazione temi, però, di imam, ci sono dei temi certe volte che riguardano Luca, sono anche perché molto pesanti, perché ecco, si dà la zappa da solo, cioè perché si vuole così male lei, scusi Luca. Ha detto ha detto una cosa che non esiste, cioè che quelli che fanno satira dovrebbero occuparsi anche di altro, ma si occupassero di quello che vogliono, chi se ne frega, perché non c'è mica il bilancino, non c'è il bilancino. Sono dei professionisti, facciano quelle cose, però ecco, la satira deve essere pluralista. Sì, vabbè, ecco, certo. Riguardo la Chiesa Cattolica, che lì è tollerante, allora si può fare scrivere certo, quello meno che male. Vuole. Certo. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here. Sentite l'Apo Elkan e la Ferrari di velluto. Di velluto, caro Parenzo, di velluto. Ho lavorato su quello che sono i pattern, come c'è il gessato, c'è il principe di Galles, c'è il tartan. Sì, però di solito sugli abiti, no? Sugli abiti, ma certe automobili l'hanno fatto sui loro interni. Delle vecchie Ferrari avevano il velluto, piuttosto che... Però dentro. Dentro, io lo voglio fare sull'esterno. Il velluto fuori? Hai capito, Parenzo? Però perché se uno di noi proponessi una roba simile, io dico non dopo 5 minuti, ma dopo 40 secondi viene uno, ci prende per l'orecchio e ci manda in ospedale. Beh, io ricordavo che cosa? Il velluto esterno alle Ferrari, cioè una Ferrari, capite, impellicciata di velluto fuori, cioè, ricoperta di velluto. Mi ha ricordato Lucci e lo Chatouche, ti ricordi? Beh, sempre col suddetto, La cravatta in maglia però mimetica. La cravatta in maglia però mimetica. La sciarpa camouflage spruzzata. Bellissima. La sciarpa camouflage spruzzata. Un principe di Galles doppio petto con asole molto larghe. La sciarpa zebrata. Le asole molto larghe, la sciarpa zebrata. Ma ben oltre il cappello pandan. Lapo, tu vieni considerato anche una persona che lancia delle mode. Il vero grande successo della moda di Lapo è stato un altro. Lapo è stato il primo in Italia a lanciare una moda. Ecco, ma cosa ci trova un uomo in un trance? Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Ho lavorato su quello che sono i pattern, come c'è il gessato, c'è il principe di Galles, c'è il tartan. Sì, però di solito sugli abiti, no? Sugli abiti, ma certe automobili l'hanno fatto sui loro interni. Delle vecchie Ferrari avevano il velluto, piuttosto che... Però dentro. Dentro, io lo voglio fare sull'esterno. Zanzara. c'è una forte preoccupazione da parte certe autorità nei miei confronti, mi hanno pregato di non andare a fare discorsi nelle piazze. Lei sa che ci fu un tentativo di uccidermi. Sofia. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24, a un passo dalla candidatura a Storace nel Lazio, ai danni della Lorenzin. Sembra che Berlusconi o comunque il PDL abbia deciso, sulla base dei sondaggi, sarà il candidato, il presidente della destra, e c'è questo giallo sulla desistenza PD Ingroia, ma il PD nega di aver chiesto a Ingroia una desistenza in alcune regioni. D'altra parte, se il movimento di Ingroia si ritirasse da alcune regioni, Sicilia, Campania, Lombardia, i voti dove li piglierebbe? Cioè, per cui che tipo di desistenza in alcune regioni molto delicate ci potrebbe essere? Nessuna, penso. Il sindaco di Palermo, Orlando, che è uno dei dirigenti di questo movimento di Ingroia, uno dei leader, dice che però gliel'hanno chiesto. L'interessato, Franceschini, nega. Gerani, mettiamo Gerani. E poi c'è Monti che chiama Berlusconi pifferaio magico. Ma voglio farvi ascoltare, voi che siete qui presenti sulle autostrade, sulle circonvallazioni, in città, a casa, in bagno, questa telefonata inquietante arrivata alla Zanzara nella giornata di giovedì scorso. Sono in corso accertamenti, eccetera, eccetera. Un signore che si è classificato come poliziotto in servizio, sentite, è inutile che vi spiego. Io la soluzione Vabbè. Ce l'ho. Io qual è la soluzione? Io ho un porto d'arma, una Glock con due caricatori 15 colpi, un fucile a pompa 4,50, io andrei a Roma, sono maestro di karate, ho anche una katana, entro dentro, metto la sbarra, sono sicuro che sistemo l'Italia. Chiamava dalla provincia di Como e si presentava come, non mi ricordo, Mario dalla provincia di Como, mi suggeriscono. Poliziotto dalla provincia di servizio. Como, dice lui, sono in corso accertamenti, ripeto, sono in corso accertamenti, perché insomma uno dice di avere un arsenale a casa, di voler entrare alla Camera dei Deputati per fare una strage, insomma qualcuno si è mosso, no? Telefonata arrivata alla Zanzara, sentiamo ancora. Sofia, portami. Dentro sistemo tutti. Cioè ammazza tutti. No, non dico che li ammazzo, io sistemo l'Italia. A me poi possono fare solo due cose dopo. Solo due cose. La prima, mi danno l'ergastolo. Beh, quello quasi c'è. Anche 70 anni vengo fuori. È probabile. È ragionevole pensarlo. La seconda, forse mi danno la medaglietta. Sa che quella però gliela danno al manicomio, la medaglietta però. Una volta entrato in Parlamento così, che cosa fa? Io comincio a sparare a sinistra. Una volta che sono dentro tutti, io chiudo, non faccio più nessuno. Poliziotto in servizio, certo. Sì, certo. Se faccio servizio, faccio per bene. Gianpaolo da Milano, 800 24 00 24, numero magico per chiamarci. Gianpaolo, prego. Sì, buonasera, Cruciani e Parenzo. Allora? Solo per una precisazione in relazione alla Ferrari rivestita di velluto o di Galles o di altri tessuti. Allora? Volevo precisare che successivamente in quella conversazione era emerso e chiarito che il disegno del tessuto, del velluto e degli altri eventuali tessili che vengono stampati sulla carrozzeria, non il tessuto vero e proprio. Sì, no, Gianpaolo. Siccome siete stati un po' precipitosi, anche a me sulle prime mi era sembrata una cosa, ieri ho seguito quella trasmissione, una cosa un po' strana, molto particolare. Sì. In realtà poi nella conversazione è emerso che era una cosa, era solo per una precisazione. No, sì, per carità, Gianpaolo, però nessuno di noi poteva credere che si poteva ricoprire la macchina di velluto. Avevate un atteggiamento molto ironico, anche perché fa ridere una cosa del genere, anch'io ci rido sopra, però ci tenevo a precisare che era una cosa impropria, insomma. Va bene, Carlo D'Ancona, buonasera. Buonasera, riguardo a Pisani e a tutte altre persone che hanno presentato delle liste relativamente ad alcune problematiche, non potrebbero, onde evitare un po' di casino che c'è già abbastanza sufficiente per non capire più niente, inserirsi in altri liste e proporre di riformare l'Equitalia come di riformare tante altre cose senza bisogno di costruire 251 liste. Ma a noi lo dice, noi ci divertiamo come matti naturalmente, però... Lo so, ma infatti voi siete molto divertenti come approcciate gli argomenti e che mi divertite mentre guido, soprattutto in macchina. Non c'è bisogno di un partito contro Equitalia, sono d'accordo con lei. Masiar, da Milano, buonasera. Buonasera. No, volevo giusto bacchettarla un attimo per la sua polemica con la Boccassini. Oh, guardi, a proposito, io tra l'altro non sono assolutamente contrario al fatto che con le elezioni bisogna sospendere i processi, sia chiaro. Cioè, qualcuno mi ha accusato, Berlusconi, eccetera. Per me le elezioni sono un accadimento, sì, certamente importante, qualcosa di importante, però non è che bisogna interrompere i processi. Allora la cosa dovrebbe riguardare tutti i candidati, chiunque si candida a un processo dovrebbe, siccome è impegnato nella campagna elettorale, non può andare a un'udienza, eccetera, eccetera. Una follia totale, cioè, ma sia chiaro. Il problema non è che Berlusconi è candidato premier, cioè, non è per questo, ha capito? No, no, ma il fatto che la Boccassini ha fatto riferimento a essere premio o meno è che la difesa ha portato, o ha fatto la domanda di sospensione proprio sì. portando, diciamo, dei precedenti in cui, diciamo, quindi sì. Ariosto e Smè, in cui Berlusconi era candidato premier. Sì. Quindi l'unico riferimento era alle carte portate motivo. Dalla difesa, dice lei. Esatto, quindi non c'è da fare polemica o ricami, diciamo. Cioè la Boccassini rispondeva a quello che era esatto. stato messo in risalto. Questo è sì. un'altra bacchettata anche a Parenzo, perché lui fa un po' il cagnolino della situazione, invece è un po', dovrebbe un attimino tirare fuori i cosiddetti e rispondere di conseguenza. A proposito di questo, semplicemente non lo sapeva. La ringrazio, Roberto da Pesaro. Roberto da Pesaro, David, dai, Roberto da Pesaro. Buonasera. Dica. Volevo far presente che forse questa discussione sul legittimo impedimento, l'impressione che sia abbastanza, come dire, non troppo importante, nel senso adesso c'è questo fatto del legittimo impedimento, va bene, sì, secondo, ovviamente secondo il PDL eccetera eccetera, i giudici vogliono arrivare a una sentenza prima delle elezioni, ho l'impressione che però si stia perdendo il problema di fondo. E qual è il problema di fondo secondo lei? Il problema di fondo è che c'è una persona che ha sì. delle accuse gravissime sì. tra cui sfruttamento della prostituzione minorile. Ma questo lo sappiamo però, Roberto. È arcinoto. Lo so, ma vede, si rischia di perdere la concezione quasi della normalità delle cose. Cioè noi lasciamo completamente, non parliamo affatto del fatto che una persona che ha questo pendente sì. si presenti alle elezioni, cosa che non credo succeda in nessun altro paese occidentale, capisce? Noi abbiamo quasi sì. interiorizzato il fatto che un nostro probabile, o è stato tre volte presidente del Consiglio, sì. abbia a suo carico delle accuse e delle condanne gravissime, e nonostante questo possa ancora presentarsi alle elezioni e far discutere i giudici o meno sul legittimo impedimento. La realtà è che per vent'anni noi siamo stati condizionati da un regime mediatico sì. terribile, sì. che ha fatto anche, ritengo, dei danni a livello culturale che sì. sono stati prodotti. Sì, però Roberto, adesso non mi faccia la pippardella anti-berlusconiana sul regime culturale, il regime mediatico. Perché io sì, è importantissimo, certo. Infatti è la prima volta che lo sentiamo, talmente importante che è la prima volta che lo sentiamo. No, guardi, sicuramente non è la prima volta, però penso che sia una responsabilità gravissima da parte sì. della società nel votare una persona di questo tipo e aver promosso per vent'anni un regime di questo benissimo, tipo. Grazie. Forse va bene, siamo tutti colpevoli, grazie, siamo tutti colpevoli, abbiamo vissuto, come dice Travaglio, nel sonno della ragione, nel sonno, nel grande sonno per 20-25 anni. Grazie, Simone da Firenze. Buonasera Fusciani, buonasera Parenzo. Dica. Io, è difficile dirlo perché mai avrei pensato in vita mia di una cosa del genere. Ma cosa? Però... Cosa? Se non ce lo dice... Devo dare ragione a Berlusconi sul discorso dei giudici per quanto riguarda le separazioni. Ah, ma lei vuole entrare nel merito di questa cosa qui, i mariti svantaggiati rispetto alle donne, alle mogli, eccetera. Ah, guardi, eccetera. Sì. Vabbè, lei avrà un'esperienza personale? No, mia una sola, guardi. E quante volte è stato sposato, scusi? Volte, no. Una, però ne sto raccogliendo N per quello che mi sta succedendo. Vabbè, ma questa c'è una lunga letteratura su questo, caro Simone. Sì, però purtroppo... Ho capito, ma voglio dire, è un caso particolare quello, eh. È vero che si basa su una certa giurisprudenza, eccetera, eccetera, però insomma... No, non è un caso particolare, è un caso che stanno vivendo tante persone. Sì, d'accordo, però insomma... E se ne parla poco. Sì, ma non se ne parla poco. Anche a me mi fa impazzire quando uno dice se ne parla poco. Non è vero, cioè non è così. Si parla di tutto in Italia, si parla di tutto, perché ci sono miliardi, milioni di luoghi dove parlare. Non è vero questa cosa che non si può parlare. Certo, alcune cose arrivano alla grande informazione, altre meno, c'è internet, c'è il web, eccetera, eccetera, ma arriva tutto, arriva, si può parlare di qualsiasi cosa. Poi per fortuna c'è qualcuno che sceglie cosa è rilevante, cosa non è rilevante, eccetera, eccetera. Poi ci sono i paletti, gli editori, i partiti, però qual è il problema? Ci sono anche tanti interessi economici, cioè, sì. Io mi sono ritrovato nel mezzo a una storia dove c'è un'associazione che ha grossi interessi economici e qua a Firenze nessuno la tocca, pur sapendo che associazione, che scusi? È un'associazione, una Ollus che fa sparire per periodi di tempo moglie e figlioli in modo non corretto, ecco. Cioè, non ho capito, c'è una Onlus a Firenze, secondo lei, che fa sparire... No, i miei figli sono stati messi in una casa famiglia per 5 mesi, io non so... Ma non è che lo fanno, cioè lo fanno con una cosa, lo fanno... No, però guardi, mi assicuro... Ci sarà un provvedimento del giudice? Io le dico che non c'è nessun provvedimento del giudice... Sottraggono i figli ai padri? Sì, guardi, vabbè, approfondirò, grazie Simone, tanto abbiamo tutti i telefoni, approfondirò. Servi di Roma fuori... Senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardava. Canta con me, Parenzo! Servi di Roma fuori, Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. Però io non ti voglio sentire così così mogio, così abbattuto, così. Ma che hai? Chi hai stasera? Io sono carico a pallettoni, tu sei abbattuto, non, hai la voce che si inceppa. C'ho la gola. Ma quale gola? Ma se ti ho sentito carico a 1000 oggi pomeriggio, dove sei adesso? Ma dove sei? Dove sei? Non si sente niente, dove sei? No, come si deve? Ma caricati! Ma non stai a cosa? Non stai a Radio Vaticana? Buona Padania a tutti! Bella la tua terra! È con noi Matteo Salvini, buonasera! Buonasera, buon viaggio a chi è in coda! Come andiamo? Bene, su Strack, ma bene. Qui ci vuole una traduzione simultanea, però. Sono stanco. Simultanea. Ha sentito la polemica che c'è su Marchisio Salvini? No, quella conseguente al fatto che ha detto che calcisticamente parlando gli sta antipatico col Napoli. Sì, ma è una polemica assurda. Adesso uno non può dire nemmeno che Napoli è antipatica perché viene accusato di razzismo. Cioè, è una cosa pazzesca, o no? Sì, c'è quello. Io ho visto sulla pagina Facebook. Io sono milanista e quindi la Juve non mi suscita grandi simpatie. Però vedere delle minacce di morte a Marchisio e alla famiglia perché ha osato dire che calcisticamente parlando il Napoli gli sta antipatico mi sembra veramente follia. Beh, insomma, lei è andato un po' oltre col Napoli, mi ricordo, un famoso coro, sì, eccetera. Un stadio di dubbio gusto per cui mi sono scusato in più lingue. Detto questo, ripeto, a me sta antipatica la Juve. Ma questo non penso mi comporti minacce di morte da parte degli amici torinesi. Senta, tra l'altro ti ricordi, Parenzo, Marchisio è quel giocatore che venne accusato di aver cantato, cioè di non cantare l'inno italiano, era stato quasi, quasi adottato, cioè, non dico adottato, ma insomma dalla Lega, o sbaglio Salvini? Un simbolo era diventato. No, che uno non possa neanche dire che cosa mi sta simpatico, cosa mi sta antipatico in Italia... onde evitare minacce di morte mi sembra veramente folle. Allora Salvini, segretario della Lega Nord in Lombardia, europarlamentare, subito una domanda: abbiamo saputo che Maroni non sarà candidato al Parlamento, giusto? Esatto, ha fatto una precisa scelta diversa dagli altri, se si candida in Lombardia si candida solo in Lombardia, dunque non avrà il famoso paracadute, se non fosse eletto in Lombardia resterà, diciamo, non avrà nemmeno il seggio in Parlamento. Esatto. Ma invece grave, Salvini però. Che fa? Si candida? Perché qualche nome ce lo dovete mettere al Parlamento italiano. Ho appena finito una riunione con tutti i nostri ragazzi da Sondrio a Mantova, passando per Bergamo, hanno portato i nomi da tutte le sezioni, noi facciamo le nostre primarie, fra virgolette, coinvolgendo tutti i militanti. Salvini sta bene con me e gli piace lavorare per la Lombardia, quindi non penso si candiderà. Le diamo una notizia definitiva: non sarò in lista per le politiche nazionali, così? non glielo so assicurare, perché può essere che sia candidato se serve per dare una mano al movimento, ma Salvini rimarrà a Bruxelles e a Milano, cosa che gli piace di più fare. Allora, cioè, traduco per... Non vado a Roma, Salvini non va a Roma. Non va a Roma, dunque... No, Salvini però... l'hanno chiesto, ma Salvini non interessa andare a Roma. Dunque, potrebbe però essere candidato, come è successo anche l'ultima volta, e poi in realtà per attrarre voti, perché un po' di voti ce li hai, Lombardia, adesso dico un po' così per non entrare... In più d'uno mi dice, soprattutto al di fuori della Lega, questo mi inorgoglisce. Che tu hai voti... dai leghisti, mi soddisfa essere apprezzato anche i non leghisti, mi soddisfa anche di più. Dice, candidati. Io ho detto, guarda, mi viene bene fare quello che faccio. Se servisse per portare voti, lo faccio, ma poi rimango dove sono. Però questo è un po' un vecchio trucchetto che andrebbe... No, guarda, sì. Abbiamo una militanza molto attenta. La Lega ha i militanti, fortunatamente. Vabbè, che c'entra però, scusa, con i militanti? I militanti vogliono... Vabbè, ma questo è un modo per dire... No, ma basta dire chiaramente che cosa si fa prima. E il fatto che Maroni non sia candidato in nessuna regione... Ma quella è una scelta precisa, va benissimo. È una chiara scelta di campo. Allora, dunque, però... Diciamo... si augura di non essere candidato da nessuna parte. Però potrebbe accadere che è in lista, ma semplicemente per attrarre voti, dopo si dimette un minuto dopo essere stato eletto, così? Può essere. Può essere. Beh, in compenso diciamo subito che c'è una grande novità. Qual è la grande novità? C'è un candidato nuovissimo che il Carroccio ha deciso di candidare. Come il signor Bossi. Ah, beh, certo, un candidato assolutamente nuovo. Cioè, un candidato. Tutti dicevano che doveva stare a casa. Nuovo di zecca. Salvini, che ne pensa lei del fatto che Maroni ha annunciato pubblicamente che Maroni sarà che Bossi sarà candidato alla Camera? Una botta di novità. Ah, come? Gli ho chiesto io. In che senso? Ho chiesto io a Umberto Bossi di candidarsi come segretario della Lega Lombarda. Perché se sono in collegamento con la Zanzara questa sera è perché 20 anni fa un matto cominciò a parlare di Nord, di tasse, di Veneto, di Lombardia. Vabbè, questa è la riconoscenza, va benissimo, i meriti di Bossi per un militante della Lega, per un deputato della Lega. Passato, al di là degli errori fatti, come quello di candidare suo figlio, ci mancherebbe altro chi sbaglia, quello è stato un errore evidentemente... Clamoroso. È stato un errore. Detto questo... penso che possa dare ancora molto in termini di idee. Io ci ho parlato 2 giorni fa di Europa, di tasse, di fiscal compact. È ancora molto lucido. Assolutamente. Da questo. Assolutamente. Cioè è una spanna sopra gli altri, è ancora una spanna sopra gli altri, come dicono sempre. Sì, è il giorno del funerale della mamma. Quindi no, vabbè, ma infatti per carità. Che abbracciarlo e ringraziarlo per avermi ridato la coscienza. Detto questo, per avermi ridato molto da dare, per avermi ancora molto, cioè, e comunque secondo lei una spanna ancora sopra gli altri Bossi? Nonostante gli scandali, ma ce ne sono tanti, una spanna sopra gli altri. Beh, ce ne sono tante, una cosa. Bossi, sindaci della Lega sconosciuti più che mai la Zanzara intervisterà, che sono una spanna sopra gli altri anche loro, che sono Claudia Terzi di Dalmine piuttosto che altri nostri sindaci in gamba. Senta, ma scusate, ma non avevate detto basta con la famiglia Bossi? Vabbè, no, con Bossi mai. Con la parentela. Detto questo, ma non è che ha provato. Magari la gratitudine non è di casa, sarebbe più comodo dire via. Umberto Bossi, non indagato, si è dimesso da segretario del partito. Altri segretari di partito indagati sono ancora segretari. Ma non è che Salvini non è che ha provato a piazzare qualche figlio pure stavolta, no? In Parlamento, no. Errare umano. Perseverare sarebbe diabolico. Senta, ma allora Albertini ha detto che Formigoni forse ha delle cose da nascondere, insomma, che messaggio è quello di Albertini? Come lo vogliamo definire? Ma poco trasparente e preoccupante. Sì, ho qualcosa da dire a qualcuno, ecco, magari come Lega difettiamo in questo, la diciamo molto apertamente, forse troppo apertamente, mai mi è capitato di dire a qualcuno... Stai attento di non parlare male di me, se no potresti pentirtene con quello che so di te. Vabbè, ma con una roba mafiosa, un abbraccio mafioso, un messaggio mafioso? Questo lo dice lei. Ma no, è una domanda. Mafioso? L'amico Albertini ogni tanto querela, quindi io non mi permetto di dare del mafioso. Ogni tanto querela. Agli ascoltatori giudicare. Addirittura querela? No, lo so, in passato è capitato. Non è parte della mia persona e della mia indole dire a qualcuno stai attento, se no potrei dire qualcosa. Se hai qualcosa da dire di importante lo dici, punto. Adesso riprendiamo la comunicazione perché si sente poco. servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti, servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Maurizio d'Alessandria. Sì, buonasera Cruciani. Vada, vada, adesso riprendiamo con Salvini, eh. Maurizio, vada. Niente, volevo intervenire in... Perché niente? Quando uno deve intervenire dice qualcosa. Quella per la telefonata che hanno fatto in diretta. Sì. Io penso che molti italiani sono d'accordo con quello che ha detto quel signore. Perché qua parliamo solo di aria fritta. Ma chi? Quale signore? Quello che si spaccia per poliziotto? Cioè, secondo lei ha ragione quello che si spaccia per poliziotto? Ma io secondo me, io ho detto che molti la pensano così girando, si sente in giro. Poi, seconda cosa, i politici parlano, ma alla fine cosa fate? Niente. Siamo arrivati che se gira nella zona industriale dove ci sono le ditte. Guardi, già quel signore lì è leggermente fuori di testa. Se lei dà ragione, è peggio di quel signore lì, no, che ci ha chiamato. Secondo me siete fuori di testa voi. Noi, lì, sì. Che date ancora ragione a quelli che state parlando. Prima di Albertini, di questo, di quello. Sono modi omertosi. Ma di cosa parliamo? Me ne frega cosa fa Bossi, cosa fa Berlusconi, cosa fa... E dunque bisogna andare... Un anno fa li hanno mandati a casa dall'Europa, no? E cosa li rimettiamo lì a fare che cosa? Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava avanti. E siamo qui, 800 24 00 24, la Zanzara, ospite. Scusi, di oggi, professor Cruciani, dimmi. Scusi, subito per dire una cosa, signor Salvini, l'onorevole Salvini, questa Lega 2.0, quella delle grandissime novità, le novità sono, Bossi si ricandida, di nuovo l'alleanza con il signor Berlusconi, e loro però candidano come premier Tremonti, è una cosa meravigliosa. A parte che non candidano premier Tremonti, è un'idea della Lega. C'è sempre questo punto interrogativo su chi sarà il designato premier se dovessero vincere. Ma io ho il sospetto che a Salvini non importi nulla di queste vicende romane, giusto? Bravo Cruciani. Ecco, e cioè a lei non gliene frega niente vincere o perdere le elezioni politiche nazionali, diciamola tutta Salvini, cioè diciamola molto. Mi interessa molto meno rispetto alla prospettiva di poter fare in Lombardia, fare, non promettere. Aspetti fare, che non sentiamo, si avvicini di più, cioè che succede? Sono attaccato al telefonino. Eccoci qua. Sono attaccato, sto dicendo che mi interessa no, fare. No, c'è l'auricolare più che altro. Non c'ho l'auricolare, c'ho un telefonino baraccone che mi sono pagato io. Me lo farò cambiare. Speriamo, che ne so, boh, non si sente male. Comunque, cioè a lei di Roma alla fine, cioè dalle vicende di Roma, della politica nazionale, non gliene frega niente. Cioè non è importante vincere le politiche, giusto? Possibile, giusto? Tanto è impossibile vincere. È difficile, molto difficile, niente impossibile, ma la sinistra parte evidentemente avanti a livello nazionale. Le piace la campagna elettorale di Berlusconi, però alla grande sta andando, no? Sembra, rimonta. Non lo guardo. Non lo guarda Berlusconi in televisione? No. Non guardo la politica in televisione. Sono in macchina. Non guarda la politica in televisione. Ma è vero, ma non guardo nessuno, neanche i leghisti in televisione. Cioè, lei da Santoro non l'ha visto Berlusconi? No, onestamente ho guardato un telefilm su Rai 2 quella sera. Cioè a lei di Berlusconi in sostanza non gliene può fregare di meno di quello che dice e di quello che fa, giusto? No, ma... Non gliene frega niente, diciamolo. Dedico qualche ora alla famiglia o ad altro e non guardare la politica. Ma permettimi di insistere. Mi fa rispondere a Parenzo sul fatto che se riuscissimo a fare quello che hanno affermato Non si sente! Ma non si sente niente. Ragazzi, il telefonino di Parenzo. Adesso si sente. Vengo da voi in studio. Eccoci, allora. Sto dicendo che il far firmare a tutto il centrodestra, da Bolzano alla Sicilia, l'impegno a che ogni regione si trattenga il 75%. Sì, ma questo lo sappiamo già. Sappiamo già queste cose. Tranquillamente fare, averlo fatto firmare e sottoscrivere da Berlusconi. Ma lei si fida della firma di Berlusconi? Si fida ancora di Berlusconi. Io mi fido di Maroni, perché Maroni governatore. Ho capito, però ha firmato pure Berlusconi, però. Stavolta gliel'abbiamo fatto firmare. Appunto. Non fidarsi a me. Lo sa quante, quanta gente vale si è fatta firmare una cosa e poi sono andati a fine tribunale? Dire, faccio un esempio. Stiamo lavorando a un progetto a sostegno dei genitori separati in Lombardia, che già abbiamo fatto in provincia di Milano. Se Maroni vince, a me, col sostegno meno di Berlusconi, interessa poco, coi voti del PDL sicuramente riusciremo a fare a livello di Regione Lombardia per i genitori separati quello che abbiamo fatto in provincia di Milano, che sarebbe tanto. Vabbè, questo vedremo. Scusi un attimo, vedremo. Scusi un attimo, ma alla fine lei aveva detto con Berlusconi, tra le tante cose che aveva detto contro Berlusconi prima dell'accordo, che per carità di patria non elenco, si parlerebbe solo di bunga bunga e processi, però insomma, oggi per esempio uno di questi... Continuo a ritenere che sia stato giusto per la Lega chiedere che non fosse Berlusconi il candidato premier, perché oggi uno dei titoli di apertura era Rubi interrogata a Milano. Ma tanto è uguale, perché tanto è Berlusconi il frega di Rubi interrogata a Milano e del bunga bunga, mi permetto di dire. Sì, però Salvini, io mi permetto di dire che questa cosa che voi non avete ancora deciso chi è candidato premier significa una sola cosa. Primo, quello che ci ha detto lei, che a voi non me ne frega niente, tanto lo sapete che non vincerete. Questa è la prima cosa. Secondo, che è una farsa, perché metta pure che voi vincete, la coalizione, no? La coalizione vince le elezioni. Il PDL piglia un sacco di voti, ma secondo lei chi lo fa il candidato premier? Cioè non chi lo fa il premier? Ma si figuri, su, dai, non lo sa. Berlusconi, parti chiare, mi senza lunga, ma detto questo, non mi frega, non sono un tifoso del pro contro Berlusconi, mi interessano le cose da fare, e quindi se il sostegno anche di Berlusconi mi permette di fare in Lombardia quello che vorrei fare, allora va bene anche il sostegno di Berlusconi, non candidato premier, però ripeto, la settimana ci sono i lavoratori di San Raffaele che rischiano il posto. Lei lo sa che è alleato, anche sarà alleato, tanto saranno candidati di Cosentino, Milanese, quasi sicuramente anche dell'Utri, cioè le liste della Lega saranno assolutamente pulite, però siete alleati anche con quelli. Allora, ci hanno detto che il governo Monti col voto di Bersani avrebbe approvato una legge contro gli incandidabili. Vabbè, non ce l'hanno fatta. Quelli di cui lei parlava sono candidati. Chi è che ha sbagliato la legge? No, però scusi, la realtà è che voi sarete alleati anche con questi qua. Le fanno schifo? Questi personaggi le fanno schifo? Noi avevamo chiesto che non fosse candidato neanche un rinviato a giudizio. Se il governo Monti, manco questa legge, è riuscito a fare col consenso di Bersani, Fini, Casini e Berlusconi... Ma i partiti non l'hanno voluta, in particolare PDL, dai. Ho capito, ma ripeto, ce l'avevamo presentata. Quanti ascoltatori si ricorderanno le scorse settimane? Lei non è contento di essere alleato? In Parlamento. È contento di essere alleato con Cosentino? Ma evidentemente no. Non è contento, no. Cioè le fa un po' schifo Cosentino? No, lo schifo lo riservo ad altro, non agli esseri umani. Prenderebbe un caffè con Cosentino? Andrebbe a pranzo fuori con Cosentino? Ma non ho mai avuto l'occasione e preferisco altri con cui bere il caffè. Però ripeto, io garantisco che le liste della Lega... Cioè manco un caffè prenderebbe con Cosentino, manco un caffè. Ma no, lo prendo con Parenzo piuttosto che con Cosentino. Beh, ti credo. Se offre Parenzo. Non sono mai stato guardi, potrebbe esserci, anche potrebbe esserci anche dell'Utri, Con Parenzo? No. No. Cosentino al bar, sto dicendo. Ma noi contiamo che il PDL riesca a fare la pulizia che ha promesso di fare, come Lega la facciamo. Detto questo, se il governo Monti Bersani manco è riuscito a approvare una legge sull'incandidabilità di certe persone, me ne dispiaccio. Detto questo, mancano 40 giorni al voto. Io contesto l'ultimo ascoltatore che ha detto i politici sono tutti ladri, sono tutti uguali. Non è vero, ci sono politici ladri. Siete alleati anche con Lombardo, siete alleati anche con Lombardo fra poco. Lombardo ha fatto il presidente di regione con la sinistra fino a due mesi fa. Però sarete alleati anche con Lombardo. Io mi occupo di Nord, mi occupo di Lombardia, dove l'ultima parola sulle liste sui candidati è di Roberto Maroni. Però alla fine nella lista nazionale siete candidati anche con il PDL. Ma se andremo a fare l'opposizione, come è chi se ne frega, andremo a fare l'opposizione, il gruppo della Lega fa il gruppo a sé. Vabbè, quello è chiaro. Quindi però, è che a me interessa non avere improponibili in Lombardia. Senta, tutto, secondo lei fare... farete campagna Berlusconi e Maroni faranno un comizio insieme? Faranno un comizio insieme o no? Io vorrei vedere la faccia dei leghisti con Berlusconi sullo stesso palco vicino a Maroni. I leghisti sono gente pratica e ritengono che se non si è riusciti a fare a Roma quello che abbiamo provato a fare per tanti anni e possiamo farlo in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, ci alleiamo anche con Mago Merlino. Comunque lo dica anche con Mago Merlino, questa è buona. Scusi Salvini, però lo dica a Berlusconi che ritorna sui comunisti, che anche lei in passato è stato un po' comunista. No, il mio primo voto è stato alla Lega, il mio ultimo però voto sarà alla anche Lega. Lei in gioventù è stato uno di sinistra, lo dica Berlusconi, anche un po' comunista. chi al liceo non ha fatto le autogestioni, le occupazioni? Ero comunista, lo dica, ero comunista da ragazzo. Ma a 16 anni come si fa a essere comunisti? Avevo simpatie di sinistra, sicuramente. No, comunista, era simpatia all'epoca. Ma comunista, no, insomma, va bene. Mi ero candidato, sì, alle elezioni padane con la sinistra padana, adesso non mi ricordo il nome, assolutamente. Sì, però da ragazzo era un po' comunista, di sinistra, era di sinistra, sì. Non è una vergogna, lo dico. Ma io ritengo di essere ancora di sinistra, perché ritengo che alcuni temi come la difesa delle pensioni, la difesa dell'ambiente, dello Stato sociale, siano temi di sinistra che la Lega porta avanti. Benissimo. Più di certa sinistra. Allora, dica a Berlusconi che questo suo insistere sui comunisti in campagna elettorale... Basta, questo non gliene frega niente a nessuno dei comunisti e dei fascisti, onestamente. Io chiederò il voto in Lombardia per sistemare i treni dei pendolari, non contro i comunisti. Senta una cosa, ma a Salvini, Parenzo, i temi affrontati da Berlusconi non gliene frega assolutamente nulla, manco lo guarda in televisione. Pensa quanto deve essere costato... Berlusconi da Santoro, penso di sì. No, per carità. Però pensa quanto deve essere costato a Salvini il patto con Berlusconi. Una cosa pazzesca. Una cosa. Secondo me non ci ha dormito la notte su questa. È vero o no? Guardi, un leghista vorrebbe sempre e comunque correre da solo in modo tale da non... Però mi dica che questa cosa per lei è stata una sofferenza pazzesca, anche perché come cavolo faccio adesso a rimangiarmi tutte le cose? Un dolore fortissimo. Un dolore fortissimo. Da militante sì, da cittadino lombardo penso che l'occasione di Maroni sia un'occasione storica e che valga la pena di correre qualche... Allora, un'ultima cosa, ma però qua deve essere il massimo della sincerità. Fare bu come ha fatto qualcuno in quegli stadi. Il sindaco di quel paese lì, che non mi ricordo nemmeno com'è, quello Corbetta, vicino Corbetta, vicino a Bustarsizio. Provincia di Milano, però, Provincia di Milano, ha detto che insomma, dire la parola bu fino a un neger, al di là dell'espressione utilizzata, lei lo direbbe neger? Sì, neger, ogni tanto l'ha detto neger, sì. Ma neger dicono anche gli annacci, vecchioni e concato. Cioè non è un insulto, non è un insulto. No, dipende da come lo dici, da con quale cattiveria lo dici. No, io preferisco quelli che dicono il nero, la persona di colore, e poi la schifano, quelli vabbè, sono tristi. Certo. Allora, questo sindaco, aspetta un attimo. Fare un processo su un bu allo stadio mi sembra veramente da terzo mondo. Uno non deve fare bu allo stadio, sono d'accordo. Il bu lo puoi fare al bianco, al rosso, al giallo, al verde. Io sono d'accordo con lei, cioè non deve essere messo sotto processo chi fa un bu allo stadio. Ma vedete, voi se deve rischiare 3 anni di galera uno che fa bu allo stadio ed è ai domiciliari quello che ha stuprato la ragazza a Bergamo, adesso va bene tutto. Vabbè, però adesso il paragone magari si può discutere, però secondo lei non deve andare sotto processo uno che fa un bu allo stadio? Io su quello sono d'accordo con lei. Guardi, io ho fatto bu anch'io a Boateng da milanista perché giocava da schifo, ma l'ho fatto anche Ambrosini, che è alto biondo con gli occhi azzurri. Cioè anche lei fa abitualmente dei bu allo stadio? No, faccio ma adesso io non so, faccio bu, faccio beh, fischio, sorrido, non è un connotato razziale. Quando c'è Atalanta Brescia, però Gad Lerner le ha dato del razzista, Gad Lerner, sì, vabbè. Ha scritto in prima pagina su Repubblica che lei è razzista, addirittura quel tizio là che è sotto processo, quell'assessore leghista in quel piccolo paese. Un ragazzo di 21 anni che fa volontariato da quando ne ha 15, quindi penso che il bugli possa essere perdonato. Ha fatto una cazzata adesso. Lo fici pigere un ragazzo di 21 anni. Lui nega tutto, tra l'altro. Non è che come fa a dire il colore? Ma che ne so se ha fatto bu, non ha fatto bu. Se l'ha fatto, ha fatto una cazzata. Io quante ne ho fatte nella vita? Tante. Detto questo, dedicare la prima pagina di Repubblica al bu dell'assessore di Corbetta e non ai lavoratori della Nokia, vabbè, quello ognuno sceglie, mi sembra una cazzata. Comunque l'ha chiamata anche figuro, l'ha chiamata Gad Lerner, l'ha chiamata anche figuro. A me? Sì, razzista. Ma figuro. Non godere delle simpatie di Gad Lerner non mi fa... Ma una volta la invitava sempre, una volta la invitava sempre. Lo so, però da quando ho detto che appunto io vorrei la precedenza ai residenti, siano lombardi, siciliani o romani, l'assegnazione delle case popolari, dei posti di lavoro, per me non è razzismo ma è equità, per lui è razzismo, la vediamo in maniera diversa. E ancora il casino. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Eccoci qui, secondo i sondaggi diffusi da Mentana questa sera, il distacco tra la coalizione, chiamiamola così, di centrodestra e quella di centrosinistra è ancora di 9 punti, anche se Berlusconi è risalito molto nelle ultime settimane, soprattutto grazie al cosiddetto diluvio mediatico. Secondo i sondaggi invece di Berlusconi il distacco è molto più ridotto, intorno al 4%. Tina da Roma, Tina da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Caro, ti voglio fare il buon anno a te e a Parenzo. Sì. Eccoci. Allora, io questo signore di Como, come si chiama, Mario? Sì. Quello che ha detto, guardate che Eugenio Scalfaro, il direttore della Repubblica. No, ma non ha detto questo. No, aspetta, non ha detto questo, quello che sto dicendo io. Sì. Eugenio Scalfaro, nonostante un deputato, tanti anni fa aveva detto che questo Parlamento ha bisogno di una bella bomba, va bene? Si ricorda? Io non ho la memoria corta, io ho memoria di elefante. Non me lo ricordo, signora, cara signora. Non si ricorda, bene, la faccio ricordare io, e non è una persona qualsiasi, Ma questo Parlamento... Ma che vuol dire, scusi, questo signore? Cosa vuol dire? Sì, vuol dire che questo signore, quello che ha detto... È il sentimento degli italiani. Ma quale sentimento? Cioè quale? Quello di mettere una bomba in Parlamento, quello di andare dentro con le armi? No, guardi che il signore di prima andare a ucciderli. Ho capito. Questa gente che sta lì, io non la chiamo Palazzo Chigi, io lo chiamo Palazzo dei Corsari. Palazzo sono di Corsari, dei pirati, sono rapinatori d'autostrada, sono insaziabili. Insaziabili. Ci sono pochi quelli che si salvano, ma se non sono pochi, eh? Sì. Questi da dove per è originaria lei? E come sai che sono io? Sono uno come io con questa gente non riesco a distinguere tra le lenticchie. Tu riesci a distinguere? Delle lenticchie? Nelle lenticchie. Tu riesci ogni tanto a qualche pezzo di cotechino riesco a distinguerlo quando le mangio, quando lo mangio col cotechino. A me piacciono tanto le lenticchie, ma non riesco a distinguere quali più scura, quali più grossa. E dunque è meglio sparare nel mucchio, no? Ecco, allora ecco, quelli onesti, ma no, ecco cosa, ecco io che, dico quei parlamentari onesti, puliti, che hanno la coscienza a posto, ma perché non sputano addosso a quelli porci che ci sono dentro? Beh, questo potrebbe essere una soluzione, cara signora. Insieme l'altra soluzione è quella di stare ferma in questo momento. E quel caro Berlusconi, quella faccia di plastica. Plastica, non va in piazza per paura di attentati, paura di fischi e scorreggi. Va bene? Scorreggi, mi raccomando. Scorreggi, aria di mucca. Aria di mucca. Ecco. Scusi, cara signora Tina, però in attesa che quei signori adesso fra poco potrebbero venire dei signori vestiti di bianco. Ripeta senti, tutto. Cruciani, ci stanno chiudendo fabbriche, sì. Appunto, si stanno trasferendo. No, però, qui abbiamo cani e porci, entrano in politica per mangiarci. Non c'è per mangiarci. Guardi, signora, però se dovessero adesso accostarsi fra qualche istante lì nella zona dove si chiamami trova... l'ambulanza a me? Beh, signora, è già partita da qualche minuto. È già partita. Ecco. Però detto con tutto il rispetto, perché poi perché bisogna sempre avere rispetto. Dimmilo, ecco. Sì, no, però se lei dà poi col nostro centrino qualche indicazione precisa, capito? Che non vorremmo fare girare a vuoto troppo l'ambulanza per tutta Roma. No, per carità di Dio, guarda, per carità. Io sono incazzata nera, lo so, come ma tutti l'abbiamo... gli italiani. Ma questo l'abbiamo capito, però appena arrivano i signori, mi raccomando, sono delle brave persone, vogliono semplicemente aiutarla. Non sai c'è... io questi politici che entrano come li faccio? Come entro senza mutanda, li faccio uscire. Senza culo, ecco. Sì, certo, non c'è dubbio. Però signora, io spero lei ha qualche persona vicina? Sì, no, stai tranquilla che c'ho la mente talmente apposta. No, perché hai capito? No, voglio dire, posso dire cosa ho mangiato anche un mese fa? Beh, un mese fa quello che ha mangiato, quello è la grande memoria, evidentemente. L'unica cosa che mi frega è la sinusite, quando mi chiappa, allora posso ammazzare pure la sinusite, Beh, questo è particolare, siccome cioè l'innesco è passata... la sinusite, sì. Siccome lei è passata, adesso allora, è più pacifica, diciamo. Cruciani, che mi dice? Davvero, tu sei tanto simpatico. Non ho visto la tua faccia, ma Parenzo mi piace da morire. Ah, Parenzo le piace? E vuoi sapere di chi razza sono bene, io? Come Parenzo? Come, scusi? Di apparenza di chi razza sono io? Sono irachena. Irachena. Nata a Baghdad. A Baghdad, beh allora capisco io nelle mie vene. Capisco, guarda, alcune cose adesso. Vedi, Cruciani, nelle mie vene scorre sangue turco, dei gas, sangue francesi e sangue babilonesi. Babilonese. Beh, certo, lì è sono. È una bomba. Lì sono stati fatti. Lì sono stati. Come? Che ha detto Parenzo, non ho sentito? C'è Occidente corrotto. Occidente corrotto. Questo è un signore che ogni tanto si inserisce, rappresentante dell'autorità palestinese in Italia, cara signora Tina. Vabbè, quando arrivano non si preoccupi, tutto a posto, capisco che i gas nervini di Saddam possono avere provocato dei danni negli anni, però vabbè, ciao, grazie belli. Grazie, buonanotte. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Renato da Napoli. Salve. Allora, volevo dire, se il legittimo impedimento se fosse successo a Grillo, che è altrettanto il leader del Movimento 5 Stelle, così come Berlusconi è il leader della coalizione, e la Boccassini, i votanti si fosse comportato allo stesso modo, non penso ci sarebbe stato lo stesso clamore mediatico. Non lo so, guardi, a me, io appena sento la parola legittimo impedimento ormai non ne posso più, cioè non ne posso più. Mi era sembrata bizzarra quella spiegazione della Boccassini, poi mi hanno spiegato che in realtà era riferita a quello che aveva eccepito la difesa, ma comunque guardi, a me non me ne frega niente, cioè Berlusconi, anche durante le elezioni, chiunque deve andare a fare un'udienza di processo, poi che ci sia una volontà di arrivare alla sentenza il più presto possibile da parte dell'accusa, eccetera, probabilmente sì, ma questo vale sempre. Però, Ma infatti, ma anche perché se io fossi un elettore di Berlusconi, io vorrei che il processo si risolvesse nel minor tempo possibile. Sì, attenzione, sarebbe una condanna di primo grado, cioè, sarebbe comunque una condanna o una sentenza di primo grado. Adesso arriveranno a dire che la data delle elezioni l'ha fissata la Boccassini, perché se state perdendo di vista qualsiasi punto di vista, qualsiasi dato certo. Non state chi? Io non sto dicendo nulla. Il processo ha i suoi tempi, ha le sue date, ha le sue scadenze, nonostante l'imputato Berlusconi cerchi legittimamente di procrastinare il momento della sentenza. È un imputato, nessun imputato vuole innocente. Se innocente farebbe altre cose, secondo me. Vabbè, allora... Se invece ha qualche paura, procrastina il momento. Vabbè, adesso arriveranno a dire che è la Boccassini che ha fissato l'anno delle elezioni. Vedrai, troppo succederà questo. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Ed è con noi il grande architetto Massimiliano Fuxas. Buonasera. Buonasera. Come sta? Con voi. Combattiamo in questa campagna elettorale, se ne dicono di tutti i colori. Ma ha visto Berlusconi in rimonta, Fuxas? È una cosa. Ma che cosa prova a vedere Berlusconi che pare in rimonta? Ma io, per dire la verità, ormai ci ho preso l'abitudine. E allora? Perché sono 18 anni. Ormai non le fa più né caldo né freddo Berlusconi. Ma devo dire la verità, molto meno che una volta, ecco. Cioè non ha più non ha più paura. In realtà lei pensa che sia impossibile che vinca Berlusconi, diciamo la verità. Ma io penso più che altro che un uomo che sta vicino agli 80 anni può fare tante altre cose per passare il tempo, ecco. È meglio stare ai giardinetti con i nipoti che sicuramente stare lì a discutere con la Corte dei Miracoli. Però Berlusconi, come mai con tutti questi danari che ha non si accontenta dei giardinetti, che per lui in realtà significano appunto le comunque case meravigliose, isole sperdute, eccetera eccetera, come mai secondo lei? Perché credo che abbia una malattia di fondo. Cioè è malato, dice lei, no? Sì, questa è una malattia, cioè? È come quando uno subisce il sonno in ogni momento della giornata. Sì. C'è quella del senso del potere, la voglia di non ritirarsi. Lui non si vuole ritirare in pensione, lui è antifornero, ecco. Cioè vuole... Ma anche lei è architetto. Anche lei è la stessa cosa, lei pure senza lavoro muore. Beh, diciamo, non si sa, è difficile dipingere, io non è che lavoro. Se qualcuno mi dice che l'architettura è lavoro, lì allora cambio subito, mi metto a fare un'altra cosa. Io ero convinto di non lavorare. Cioè lei sta dicendo che sostanzialmente lavora, ma per modo di dire, insomma. Ma no, mi piace, è una cosa... Come i pittori, come gli si può dire a un pittore o a un musicista, non suonare, non dipingere. Vabbè, magari pure Berlusconi, anche per Berlusconi questa roba qui è, no? Dice parlare con Cicchito ogni giorno, certo non può essere una cosa. Dai, è un po' noioso. Scusi un attimo, ma lei ha deciso per chi vota? Io no, non ho ancora deciso, aspetto aspetta il momento buono. Vabbè, più o meno, però cioè, lei è sempre stato uno di sinistra. La necessità del caso, se c'è proprio bisogno, devono ringraziare Berlusconi, che io continuo a votare la stessa cosa da secoli ormai. Cioè lei sta dicendo, siccome Berlusconi è rimasto in campo, mi tocca a Napoli pure stavolta. Esattamente, questo è per questo gliene voglio molto. Ma lei fare tante altre cose, lei. Cioè come gliene vuole molto? Cioè nel senso che lei sarebbe tranquillamente passato tra quelli del non voto, perché ormai fuori Berlusconi... No, del non voto, non avrei fatto con questa ansietà, questa angoscia. L'avrei fatto, sarei andato a votare normalmente. Avrei pensato a finire i progetti che sto facendo. Non so, l'aeroporto adesso si deve aprire, perciò è una... sì. Oggi si inaugura, anzi domani si inaugura gli archivi di Parigi, gli archivi repubblicani, che è un progetto interessante, ecco. Però lei dice con Berlusconi in campo. Ah, sì, tocca, l'ansietà, è ritornata l'ansia. Ah, è tornata l'ansia, di nuovo l'ansia. Senta, ma se dovesse, diciamo, non succede, se dovesse vincere, lei che fa? Mi dica la verità. Niente, che faccio? So già lo scenario, lo conosco. Però caccerà via qualcun altro. Non so che farà di più. Ma ha pensato che ne so, vince un'altra volta Berlusconi di nuovo a Palazzo Chigi, io Archieto Fugas, che faccio? Ma non c'è mai andato a Palazzo Chigi, lui sta a casa sua. E vabbè, però è andato pure a Palazzo Chigi, ogni tanto andava pure a Palazzo Chigi. No, raramente. Non gli piace. Anche perché è un'opera bellissima. Cioè scappa dall'Italia, no, torniamo a scappare dall'Italia un'altra volta. Ma no, non credo, guardi, io oggi vedevo le due immagini con il corniciato di Liberazione. Sì. L'immagine in cui c'è scritto ciao ciao e lui si vede con la pelata da dietro, sì, con la ricrescita, diciamo. Sì. E c'è quell'altra che si dice è ritornata la mummia. Quella là, guardavo quelle e poi ridevo, ecco, sorridevo tutto sommato. Non è che preoccupazioni si può avere. E che ne so, comunque è un film un film dell'orrore. L'abbiamo visto, sì. No, è peggio. C'era un film, mi sembra, con De Niro, che c'era questo mostro che ritornava sempre, che più lo uccidevano finché gli danno fuoco e scompare. Alla fine. E che bisognerebbe fare dunque? Lei si augura una tragedia a questo punto, che Berlusconi finisca in tragedia? No, perché ormai ci siamo abituati, anzi senza di lui... c'è una noia totale, perché gli altri politici hanno dimostrato grande noia. Questo sì, diciamo, dal punto di vista mediatico, che cosa fate? Noi senza Berlusconi saremmo morti, questo non c'è dubbio. Poi quella battuta meravigliosa del core business. Core business. Perché quella è un capolavoro, lui è il nostro core business. Anche il suo no, perché lei in realtà poi fa altro nella vita. Il nostro sicuro. Sì. No, però io non c'ho niente. Dunque le è piaciuto? Non sono stato neanche l'inaugurazione. Le è piaciuto da Santoro? Le è piaciuto da Santoro allora? Lui? No, non mi è piaciuto per niente, perché a una certa età è meglio andare a dormire presto, poi Santoro dura ore e ore, non finisce mai. Io c'ho un po' di esperienza. Cioè chi è che dovrebbe andare a dormire presto? Berlusconi o lei, scusi? No, anche io, Berlusconi, un po' tutti, che hanno superato una certa età. Ma lei hanno chiesto di candidarsi o no? No, questo non, per dire la verità non mi hanno mai chiesto. Tutti parlano di me come un candidato di qualche cosa, però non me l'ha mai chiesto nessuno. Non mi hanno chiesto neanche di appartenere alla mafia, all'Opus Dei e così via. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'uma dirà te più vista in città e se non dormire. Il pifferaio magico, così monti a testa bassa contro Berlusconi. È sua la colpa della crescita delle tasse. Beh, è chiaro che Monti deve puntare a quell'elettorato lì, cioè, c'è poco da fare. Così da Bruno Vespa, questa sera è con noi l'architetto Massimiliano Fuxas. Anche per lei salgono le tasse? Architetto Fuxas? Sì, moltissimo. Moltissimo. Anche lei è incazzato? È incazzato come Giannino? Le faccio ascoltare Giannino sulle tasse? No. Beh, non mi dirà che come le tasse... Giannino, no, come Giannino. Ma senta Giannino sulle tasse. Basta! Ben tranquillo. Beh, avvocato, architetto. No, voi siete ormai fissati con i processi berlusconiani. No, io no, Parenzo è fissato. Tutto avvocato. Parenzo è fissato. Sì. Oggi Berlusconi è ancora impelagato con questo processo qui, questo processo. Ma per sempre lui senza 6-7 processi non campa. Scusi, a lei le tasse non fanno incazzare, architetto? No, moltissimo, lo sa perché? Perché cioè le piace pagare le tasse? Non si sa mai dove vanno a finire, uno se vede che vanno a finire nelle olgettine, forse sarebbe la cosa migliore. La cosa peggiore se vanno a finire al Batman, ecco. Ah, lei dice che... No, ma quelle le ha pagate di tasca sua. Se le ha pagate. Beh, quelle l'oggettino le ha pagate. Almeno qualcuno avrà provato. Sì, vabbè, ma questi soldi da qualche parte vanno a finire. Cosa dice? Quali soldi? Quelli delle tasse. Ah, beh, sì, non si sa dove vanno a finire, questo è il punto. Non si sa come vengono gestiti. Sì. Scusi un attimo, ma lei che ne pensa di questa storia dei matrimoni tra omosessuali? Guardi, io sono talmente. Io non gli augurerei un matrimonio a nessuno. Io ho avuto un matrimonio felice, sono 34 anni che viviamo insieme, io e Doriana, però un altro matrimonio qualunque non l'augurerei neanche al peggiore nemico. Perché? Perché? Ma perché sono guai terribili, c'ho degli amici che si sono rovinati per questo. Cioè lei dice adesso tutto il mondo omosessuale chiede le unioni gay? Ma tutti uguali, anche loro avranno problemi di separazioni, divorzi, non lo so, vedo tutti... negli stessi guai. Dunque è un po' contrario lei a queste cose sulle... No, non è che sono contrario per amore dei miei amici gay. Ah, ma i suoi amici gay, ma che non gli frega niente del matrimonio poi alla fine? Ma niente, quelli lì sono pochi, se loro vorrebbero avere regole e diritti che così quando si mettono insieme per una storia lunga protegge entrambi, ecco, questo. Non è questa cosa del rito sacro davanti a non si sa quale unità. Senta, ma se Berlusconi... Quanto deve pagare Berlusconi alla sua ex moglie? Questo mi piace molto perché lui è riuscito a perdere i soldi solo con due persone. Con De Benedetti e la seconda è la sua ex. Questo è straordinario, vuol dire che ci la sono... La fa godere come un pazzo. Ci sono qualche cosa... che bisognerebbe andarci a fondo e analizzare. Sono gli unici due che hanno vinto contro di lui. Vabbè, uno c'era un episodio di corruzione, l'altro è un matrimonio rovinano tutti, come sai. Fede. Ma scusi un attimo, ma lei un po' fa godere a un anti-berlusconiano come lei il fatto che uno debba dare 100.000 euro? Sono 200.000. No, 200 milioni. 200 milioni. 200 milioni di lire, la sua traduzione. No, lui parla così, vabbè, parla in modo antiquario, da ottantenne. Ecco. Mia madre ha 96 anni e parla di euro, lui parla... Ognuno c'ha il suo parametro, ma la fa un po' godere questo fatto che Berlusconi ogni giorno deve sborsare 100.000 euro alla signora Veronica Lario? No, la cosa non è che non sono stato mai invidioso di Berlusconi, perché penso che condanne a morte ce ne sono d'altro genere. Perciò sì, ma mi importa fino a un certo punto, ecco. Scusate, un'ultima cosa, se Berlusconi le commissionasse, che ne so, una cosa da fare, un mausoleo o qualcos'altro, lei lo farebbe, cioè lavorerebbe? Guardi, per Berlusconi lo ha già fatto qualcuno e il suo mausoleo è stato insediato all'epoca, mi sembra, da Cascella, che poi l'ha fatto come di solito si fa, non l'ha fatto, cioè di solito si fa al cavallo, però lui lo fece credo deputato, senatore, non so. Buono, una cosa del genere. Ma lui non lo farebbe, non lavorerebbe mai come Berlusconi per nessuna cifra? Ma non è proprio possibile, perché sono proprio due gusti, sia nella vita che nei sentimenti. Addirittura nei sentimenti. Non siamo così differenti, credo, che sarebbe molto difficile. Beh, ma sarebbe un ottimo cliente, però. Beh, quello non c'è dubbio. No, è pessimo come cliente. Perché? Perché ha il braccino corto. Ma no, Berlusconi, braccino corto. Sì. Ma sì, che sì, ne sì, sa sì, lei, scusi? Sì. Perché è un po' brianzolo, pensa ai soldi. Con chiunque parla sempre, per attaccarlo, parla sempre dei soldi. Vabbè, ho capito, ma il braccino corto non lo dice nessuno. Ma perché anche con Santoro, gli ha detto i dindi. I dindi, sì, i dindi. Disse, però, a me mi disse una cosa quando non andai a... all'inaugurazione della fiera di Milano, sì, mi ricordo, sì, che sì. Ho fatto, e lui disse Fuxas ha il cuore, cioè il cuore a sinistra, sì, e il portafoglio, cioè, a destra, e il portafoglio a destra. E vabbè, parla di soldi, perché là, lei fu criticato. Ma lui ama molto parlare di soldi, questa è una cosa. Per cui è per questo ha il braccino corto, secondo lei? Sì, molto corto. Molto sì, corto. Sì, sì. Lui, ma nessuno lo dice mai. I regali che faceva erano sempre modestissimi. Beh, modestissimi. Poi con gli anni è aumentato. Ma c'è gente che prende 2.500 euro al mese, ha avuto macchine, case. No, prima erano piccole chincaglierie, ecco. Ah, regalava piccole chincaglierie. Poi dopo, dopo però ha cominciato a sparare. Anche gli anni sono cresciuti e le esigenze... tutte queste ragazze adesso mantenute, eccetera. Sì, ce l'aveva una quantità notevole. Architetto, grazie, buona serata. Buona serata, grazie, lei, grazie. Arrivederci, arrivederci. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Alberto, provincia di Milano, buonasera. Buonasera. Vada. Volevo dire qualcosa sulla dichiarazione che ha fatto Albertini. Sì. A me sembra che sia una dichiarazione di inaudita gravità, sì, perché queste due persone stanno lì a farsi dispetti, a giocare la battaglia navale tra di loro, con tutte le problematiche del paese, tirando in ballo tra l'altro delle responsabilità, d'accordo, non penali come ha specificato Albertini, ma comunque di rilevanza politica. Quindi vuol dire che questi qua, questo qua, ha nell'armadio degli scheletri che comunque... sono un danno per i cittadini, perché se avrebbero una rilevanza tale da mettere a terra, da mettere in ginocchio Formigoni, vuol dire che non sono sciocchezze. Quindi secondo me queste persone dovrebbero avere la dignità di ritirarsi dalla campagna elettorale e non mettersi da parte, semplicemente. Ma chi li dovrebbe ritirare? Alberto, scusi. Ambedue, perché Formigoni ha detto che Albertini... Albertini mira solo le poltrone su Facebook. Vabbè, poi... Albertini gli ha risposto per le rime, gli ha detto guarda che io so delle cose che se le dico ti metto a terra. Allora qui stiamo giocando ai soldatini, cioè la gente non ha bisogno di queste pagliacciate da asilo infantile. Guardi, la frase è indubbiamente grave, dopodiché Albertini ha detto che si tratta di cose politiche, non di cose che riguardano l'inchiesta. Ma la politica ha a che fare con i cittadini siamo noi, vuol dire ma ognuno risponde sono delle cose che danneggiano i cittadini, ma questo non danneggia nessuno, guardi, cioè, casomai danneggia la persona che ha pronunciato queste frasi, eventualmente. Vuol dire che hanno fatto delle cose che comunque sono, ma che ne sa lei, magari non è vero nulla, cioè magari non è successo nulla, magari sono delle questioni politiche delle... Ma lei minimizza sempre, lei ma io non sto minimizzando per niente, l'abbiamo detto mille volte che le frasi di Albertini secondo me sono gravi, punto. Anche il caso della Boccassini, la Boccassini ha avuto sacrosante ragione, come anche Bersani, non voler incontrare Berlusconi, perché Berlusconi ha fatto il fenomeno. Cosa ha detto? Ma guardi che ognuno ha diritto di fare quello che vuole, uno può anche non volere Berlusconi a un confronto, dopodiché poi alla fine Berlusconi se lo beccherà se vuole andare a un confronto, sicuro. Perché sì, il capo della coalizione ufficialmente è Berlusconi, poi non è candidato premier perché tra Lega e tra la Lega c'è stato questo ridicolo patto con Berlusconi, Questa ambiguità di dire presidente, così magari qualcuno è uno specchietto per la loda, qualcuno pensa che lui sarà, come in effetti sarà, se riuscisse a vincere presidente del consiglio, e quindi gli dà il voto. In realtà è tutto un pasticcio, con la Lega. L'ultima cosa è l'intervento di Salvini. Sì. Io dico che non c'è ipocrisia peggiore di questa. Cioè, ma che senso ha dire c'è bisogno, il PD e Monti non hanno fatto la legge per l'incandidabilità? Vuol dire che non puoi tirar via tu dei candidati? No, ma sai che non sono i candidati politici. Sono del PDL. Intanto Berlusconi da Sky TG24. Sì, ma... Berlusconi da Sky TG24. Non c'è. Evaristo dalla provincia di Salerno. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Giusto una piccola chiosa prima dell'argomento, velocissimo. Per quanto riguarda Salvini, ha sottolineato il fatto che il cellulare se l'è comprato con i soldi suoi. Intanto lui candida le persone che l'attico l'hanno sistemato con i soldi nostri. Chiusa parentesi. Il? L'attico. Per quanto riguarda, vorrei intervenire sulle nozze gay, per quanto riguarda la manifestazione di ieri a Parigi. È stata una manifestazione straordinaria, ma prima che mi scatena contro Parenzo vorrei sottolineare perché è stata straordinaria. Ma quale? Quella contro le nozze gay? Quella contro, dice. Io non sto scatenando nessuno, ognuno può fare la manifestazione che vuole, cioè, figuriamoci, se uno è contro uno può fare benissimo, ben vengono le manifestazioni contro le unioni omosessuali, contro i matrimoni da parte dei cattolici, da parte di chi, di chi vuole, ma figuriamoci, ma non c'è nessun problema, io la penso in modo diverso, punto e basta. Cioè, no, però io andavo al di là, cioè non entro nel merito. Al di là, sì. Ascolti, in che senso al di là? Nel senso che noi abbiamo un sistema politico particolare per cui determinate istanze della sinistra vengono portate giustamente all'attenzione del pubblico, altre invece no, e quindi noi abbiamo battuta di Berlusconi, Monti vuole tassarmi anche il piffero, non so a che cosa si riferisca Berlusconi che l'ha definito Monti che l'ha definito Berlusconi un pifferaio magico, risposta di Berlusconi adesso a Sky TG24, Monti vuole tassarmi anche il piffero, traffico. Torniamo subito Strade in diretta. Ultimi rientri della sera sulle strade, rallentamenti alle porte di Pescara sul raccordo Chieti-Pescara per un incidente risolto tra zona industriale San Buceto e zona industriale di Pescara nelle due direzioni. In tema di lavori notturni ricordiamo che a partire dalle 22 fino alle 6 di domattina è prevista la chiusura della Trenapoli-Salerno tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione Napoli. Ed è nuova allerta della Protezione Civile dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24-36 ore. Sono previste piogge di forte intensità accompagnate da intense raffiche di vento al centro-sud, al nord e sull'alta Toscana. Qui sono in arrivo nevicate anche a quote molto basse. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora. Promo 24. I mercati finanziari si muovono ogni giorno, per questo bisogna affidarsi ad un trading innovativo. Con i CFD di IG è possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime. Ogni giorno 140.000 trader usano la piattaforma di IG e grazie al nuovo servizio Insight puoi osservare in tempo reale quanti trader sono posizionati al rialzo e quanti al ribasso. La piattaforma di IG non comporta alcun canone di utilizzo, garantisce un'alta velocità di esecuzione e ti offre accesso a grafici, notizie e segnali di trading. Chiunque può trasformarsi in un vero trader con IG. Demo gratuita su igmarkets.com. La Zanzara. Intanto Berlusconi ha detto che saranno ricandidati i suoi avvocati Longo e Ghedini. Adesso a Sky TG24 800 24 00 24. Abbiamo qui il personaggio che ha fatto esplodere di rabbia Beppe Grillo, Andrea Massimiliano, Danilo Foti. Ma quanti nomi ha lei, Foti? Sì, in Sicilia hanno questa simpatica usanza. Scusi? Buonasera. Qual è quello vero? Andrea, qual è quello vero? Il primo nome qual è? Tutti mi conoscono come Max Foti. Max, sì. Foti, lei, sì, è stato nel Movimento 5 Stelle, con Grillo all'inizio, no? Sì, quando non era ancora Movimento 5 Stelle. Poi ha presentato lei un simbolo, dice di aver creato un simbolo nel 2007 più o meno simile a quello che poi fu creato da Grillo, di cui rivendica il possesso. Adesso, dopo la vicenda della presentazione delle liste, dice Grillo deve collaborare con me, deve cooperare con me. In che senso, scusi, che vuol dire? Ma questo in base a quello che deciderà il Consiglio... meglio l'ufficio centrale. Vabbè, domani adesso si deciderà sul domani simbolo. Domani si saprà, sì. Scusi, perché è andato? Perché è andato? Scusi, prego? Foti, lei che non ha una struttura, non è che abbia un movimento. Siamo solo pirati. Sì, lei pirati, insomma, adesso pirati. Siete quattro gatti, diciamo la verità, adesso, perché sì, è vero. Detto con tutto il rispetto. Potrebbe essere utile, no, il fatto che Grillo abbia 5 milioni di adepti. No, ma per carità, non, uno può anche... Però perché uno deve andare là a rompere le balle, a presentare un simbolo uguale a quello del Movimento 5 Stelle? Caro Foti, ma adesso cioè io non credo a tutte le cose... È stata una provocazione. Come una provocazione? Beh, alla fin fine, almeno per il momento, non è che ci sia entrato qualcosa in tasca, Almeno... A noi è sufficiente questa. Ha capito, abbiamo voluto dare una spallata al sistema, abbiamo trovato la falla e questo è il risultato. Una spallata al sistema. Dovrebbe essere un motivo in più per sistemare le cose, no? cioè dal punto di vista della presentazione dei simboli, queste robe qui, dice lei. Certamente, l'ha detto anche Grillo stesso la sera prima di presentare. Ma vi siete sentiti con i legali di Grillo? L'ha chiamata qualcuno, Grillo, Casaleggio? A parte voi giornalisti non mi ha chiamato nessuno e io non ho chiamato nessuno perché ovviamente anche da dove mi trovo non ho i contatti. Ma dove si trova lei? Perché lei è catanese, però vive in provincia di Bergamo? Ma non sono in nessuno di questi posti. Ma perché? Io ho capito per questo alone di mistero. Cioè, pensa di essere seguito, pensa che qualcuno le voglia fare del male. Che ci siano, o meglio, le spiego. Sì. Sul mio profilo Facebook, che non ho mai utilizzato un granché, sì, hanno avuto la bella idea, adesso non so chi, presumo, sì, dei grillini, di clonarlo e quindi di hackerarlo. Ma quello, lei ha paura per se stesso? È stato minacciato? Sì, sì, anche questo. Ma da chi? Da chi è stato minacciato? Spiego. Se lei ha modo di poter navigare un po' in internet, sì, noterà che ci sono degli squadroni grillini che mi stanno cercando. Come gli squadroni della morte, gli squadroni grillini che la stanno cercando, che vuol dire? È quello che io ho visto, purtroppo anche la mia connessione non è particolarmente veloce. Io giornali non ne sto prendendo, non mi arrivano. Quindi l'unico modo che ho di comunicare è attraverso internet. Lei voleva rompere un po' le balle a Grillo, cercare di boicottare il Movimento 5 Stelle, diciamolo. No, boicottare no, perché anzi dovrebbe essere un motivo in più per spronarsi e candidarsi, no? Come ha fatto anche il buon vecchio Silvio Berlusconi. Oppure lei voleva trovare il modo per essere candidato da Grillo, magari alla fine questo qua mi candida per trovare un accordo con Grillo, magari poi no, uno strapuntino lo troviamo, o no? Sì, dai, ma l'importante è che ci sia anche lui, non voglio che prenda il suo yacht e se ne scappi alle Cayman. Vabbè, se non faccio lo spiritoso, su, Foti, ma quante speranze ha lei domani? Se vuole parlare con qualcuno serio può chiamare Monti o può chiamare, che so, Bersani? Può essere. Ma la grande firme poi o no? Non ha fatto... Come, che dici, Parenzo? No, dico, se con quel simbolo farlocco che ha presentato raccoglierà anche le firme o si accontenta di aver rotto i coglioni in questa prima fase e basta? Ma su, via, non c'è bisogno di usare parolacce, magari ci sono anche dei bambini che ascoltano, no? Beh, ma noi facciamo quello che vogliamo. No, perché chiedo solo non è che lei è la cosa, non è che lei è della buon costume, abbia pazienza. Cioè... Chissà, magari. Comunque, guardi che la legge parla chiaro, cioè la legge protegge i simboli che sono usati tradizionalmente. Certo, ma infatti non deciderò io, non deciderà lei. No, giusto? io per carità, insomma. Deciderà, abbiamo un organo preposto. Si rassegni. L'ufficio centrale. Si rassegni, lei non ha nessuna speranza, signor. La guasconata è finita. Ma sì, dai, come le dicevo, non è quello il problema. Per noi era importante la provocazione. La provocazione. Che ci siamo riusciti, ma qual è sta provocazione? Cioè quella di aver presentato un simbolo uguale a quello di Grillo? Cioè la provocazione forse è il fatto che la cercano i giornalisti, dunque lei vive tre giorni. Grillo, eh? Lei vive tre giorni di cosa? Di gloria, così diciamo, no? Ma cosa mi è cambiato con tre giorni di gloria? Che ne so, lo sa lei. Magari lo sapete voi, visto che lo state insinuando. No, faccio delle ipotesi. Allora, perché è andato lì davanti al Viminale a presentare sto simbolo? Me lo spieghi, perché? Ne avevo diritto come tutti gli altri. No, sì, ma perché? Per raggiungere quale obiettivo? Quando sa benissimo che domani ci sarà la bocciatura di questo simbolo. Perché? Come fa lei a saperlo? Ma sì, così? Scusi, Foti, su. Ma sarebbe clamoroso, se fosse così sarebbe clamoroso, dai. Non ho capito. Ma se fosse così sarebbe clamoroso, scusi. Non l'è stato finora. Ho capito. Chi l'ha minacciata, Foti? Come chi mi ha minacciato? Chi la sta minacciando in queste ore? Lei dice di ricevere delle minacce. Ho ricevuto delle minacce su internet, che ovviamente non hanno avuto modo di trovarmi. Ma adesso dove si trova? Avrebbero portate anche di persona. Dove si trova lei? Era successo qualcosa anche alla Salsi, o sbaglio? Alla Salsi, sì, Salsi, sì, si chiama Salsi. Ma dove si trova? Salsi, sì. Pronto? Dove si trova lei esattamente? Perché lo vuole sapere? Vuole venire a minacciarmi? No, io no. Sia tranquillo. Allora come mai mi chiede questa cosa? Lei si è fatto fare la foto pure con Grillo davanti al Viminale. Ma sì, perché non c'è da avere paura di nulla, Foti. Nessuno la vuole minacciare, nessuno la vuole uccidere, nessuno la vuole perseguitare. Ci sarà qualche cretino che su internet dice... Certo. Dice delle stupidaggini, ma non succede nulla. Vabbè, meglio così, no? Ma dorme tranquillo lei o no? Ma diciamo che nell'ultimo mese non è che abbia dormito molto, sinceramente. Dunque lei non voleva boicottare Grillo insieme ai pirati là? C'è tutta una storia su internet che circola, lei voleva boicottare? No, anzi, sì, infatti è stato, come le dicevo, è stato clonato il mio profilo, viene fuori come se io lo volessi affondare o cose del genere, quando invece è proprio il contrario. Il simbolo del 5 Stelle di chi è? Suo o di Grillo alla fine? Secondo lei? E che ne so, me lo dica lei. No, riuscirà domani... l'ufficio centrale, no? Vabbè. Poti, dorma bene. Ma di quello comunque. Dorma tranquillo, Sì, non si preoccupi. Ho buona compagnia. Al di là di quello, consideri che comunque Beppe Grillo ha depositato un simbolo dei pirati con all'interno delle 5 stelle. Cosa che non so se siete a conoscenza. Tutti gli altri giornalisti lo sono. Beh, noi siamo un po' più ignoranti. Va bene. Ci sentiamo domani 18:30. Buona serata. Metti che ho le emorroidi e consumo molto sapone. Che cos'è? Il fatto che sono molto ricco, ma per favore. Sì, voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Carico a pallettoni. Radio 24. La passione si sente.